Buonasera a tutte e a tutti. Questo è il quarto incontro di lavoro. Non sono conferenze, ma sono riunioni di lavoro, di riflessione, che avranno poi un seguito. E questo è il quarto con il quale chiudiamo per questa primavera il nostro ciclo Fedi e Libertà, che, come forse voi sapete, ha avuto altri tre scadenze a partire dal mese di marzo, sul tema delle appartenenze, sul tema delle verità e sul tema dei diritti. Questo è il quarto incontro sul tema dei poteri. E io non voglio dire molte cose perché abbiamo già proposto una bozza bersaglio per le vostre relazioni, per le relazioni e per gli interventi poi di chi vorrà intervenire. Voglio solo accennare al fatto che dal momento in cui abbiamo cominciato a pensare nello scorso autunno a questo seminario, sono successe diverse cose che entrano in qualche modo nella riflessione di oggi, credo. Una prima cosa che io direi positiva, sulla quale dobbiamo riflettere, è la cosiddetta dichiarazione di Dubai dell'inizio di questo anno, del febbraio di quest'anno, nella quale c'è, a mio modo di vedere, un'affermazione molto nuova e impegnativa che riguarda il fatto che la saggezza di Dio, grazie alla saggezza di Dio, c'è il pluralismo anche delle credenze, non solo delle fedi. E questa, diciamo, è una dichiarazione impegnativa e anche innovativa, a parte tutto quello che segue nella dichiarazione, cioè la ripetizione dell'importanza della lotta per i diritti, del dialogo, della pace e via discorrendo. Ma questo mi sembra un punto abbastanza discriminante, perché gli integralismi, i fondamentalismi si appoggiano spesso sulla idea, o quasi sempre, che appunto la verità e i depositari della verità siano, la verità sia unica, e quindi gli integralisti e i fondamentalisti sono i depositari di questa verità, per lo più indiscutibili nella lettura che i fondamentalismi ne danno. Le altre due passaggi importanti sono le elezioni europee e la crisi dell'Europa. Certo, nello scorso settembre-ottobre, già molti dei fenomeni che poi sono emersi nelle ultime elezioni erano visibili, ma adesso c'è un nuovo Parlamento europeo, una situazione di crisi in cui l'Europa è sotto attacco, diciamo, da parte anche di grandi potenze, e vive una crisi interna. Quindi tutto il discorso, diciamo, sulla tolleranza, anche sulle conquiste, insomma sul senso stesso dello stare in Europa e del condividere alcuni ideali europei, oggi è più critico. E da ultimo, questo forse è il più folcloristico, diciamo, ma non è senza significato, è la ripresa e l'ostentazione, diciamo, dei simboli religiosi delle ultime settimane, prima delle elezioni e anche successivamente, diciamo, nella campagna elettorale. Questo fa pensare che tutti i problemi di cui intendiamo programmaticamente occuparci, secondo degli sviluppi che dovremo discutere alla fine di questi quattro incontri, noi pensiamo di trascrivere gli interventi che ci sono stati, sottoporli agli autori se lo ritengono necessario e eventualmente pubblicarli, ma comunque diciamo ragionare nel corso dell'estate dal punto di vista operativo sui programmi che a Roma si possono pensare di sviluppo dell'iniziativa che noi abbiamo iniziato appunto agli inizi del mese di marzo. Con questo vi ringrazio e do sicuramente subito la parola ai nostri relatori. In genere noi seguiamo l'ordine alfabetico, però per esigenze di carattere istituzionale, per cui alcuni dei nostri relatori purtroppo ci dovranno abbandonare, pregherei il dottor Di Segni di intervenire. No? Allora al secondo. Allora Franco Barbero? Franco Barbero, forse tutti lo conoscono, è ordinato sacerdote, leggo, nel 1963, dai primi anni 70 è impegnato nel movimento delle comunità di base, attualmente nella comunità di base Casa d'Ascolto della Preghiera a Pinerolo, che lui stesso ha contribuito a fondare. È stato dimesso dallo stato clericale e dispensato dagli obblighi del celibato nel 2003, è autore di numerose monografie nelle quali ha espresso le sue critiche a dogmi, al divieto del ministero delle donne, del matrimonio dei sacerdoti, al diritto canonico e a molti altri aspetti della dottrina cattolica. Allora, a lui la parola. Pinerolo è un'impresa, non è Torino. Avete pazienza. Vi ringrazio dell'invito, ma vedendo gli invitati sento di essere un po' dopo l'ultima ruota del carro. Comunque ci aiutiamo. Ci sosteniamo tutti. Devo prendere ancora gli occhiali. Io svolgerò due riflessioni che probabilmente non saranno molto né ricche né straordinarie, ma che sono anche un po' quello che in questi 56 anni, da quando sono ministro di una comunità, ho maturato. La prima riflessione che vorrei almeno un po' connotare è che, guardando la mia tradizione, che è quella cristiana della Chiesa Cattolica Romana, il potere e i poteri, per quanto la mia coscienza, la mia conoscenza mi permettano di affermare, sono ancora attualmente uno dei principali nemici dell'esperienza del Dio di Abramo e del Dio di Gesù. Oggi il potere ecclesiastico, lo dico con dolore, anche nel tempo di Francesco, ancora la Chiesa Cattolica Romana ha posizioni che trovo inaccettabili sul piano culturale, linguistico, liturgico, carismatico. E devo dire che per me rimane inaccettabile che una pastorale buonistica e anche buona non tocchi nessuno dei punti decisivi della fede biblica. Penso ai linguaggi, alla dogmatica, alla catechesi, alla posizione delle donne nella Chiesa, a tutto il discorso su Satana e gli esorcisti, al discorso del gender e l'omosessualità, alla dottrina, a mio avviso incomprensibile, della Trinità, a tutta la mariolatria, tutto un complesso di cose sulle quali si ricama, ma direi, forse con una lettura di cattiva intenzione, allo scopo di verniciare tutto per non cambiare nulla. E questo è, secondo taluni, una necessità che anche l'attuale pontificato deve gestire. Io non sono d'accordo. Credo che ci siano dei momenti storici in cui c'è una chiamata al cambiamento. Una chiamata in cui non si tratta di fare i rivoluzionari, ma di sentire le urgenze. Ricordo sempre quando in un dibattito a Parigi con Drewermann sul problema sul vissuto delle donne nella Chiesa, degli omosessuali nella Chiesa, a lui fu detto: ma bisogna attendere. E qualcuno del pubblico disse: magari fra 50 anni le cose cambieranno. No, lui dice: no, le cose non possono cambiare fra 50 anni. Chi vive oggi, la donna che vive oggi nella Chiesa, deve sentirsi donna nella Chiesa oggi, deve sentire riconosciuti i diritti che sono presenti nella società. E a volte sembrerà di fare i romantici, quelli che... No, c'è un'urgenza storica, una svolta culturale che comanda, secondo me, alcuni cambiamenti. E per me questo rimane uno scandalo di fronte al messaggio biblico. La Chiesa come potere continua a mantenere delle strutture gerarchiche, patriarcali. Parla della scrittura, ma intende il dogma, e quindi io mi trovo proprio a disagio. Certo, in questa mia piccola narrazione c'è la mia storia dei tre processi subiti fino al 2003, quando 5 giudici, su una interpellazione scritta in latino dal Romano Pontefice, mi chiedevano sempre in 4 lunghe sedute, ad ogni domanda, se Maria era vergine, eccetera, prima del parto, se dovevo rispondere sì o no. Io, avendo 5 sorelle, in genere so che cos'è la nascita di un bambino, ma so anche che cos'è il mito della Bibbia, Sara, le donne sterili, no? Allora, certo, questo mi ha permesso però di cercare, amando anche la mia tradizione, di vedere che cosa potesse davvero cambiare. E da quando nel 1963 ho incontrato l'esperienza degli omosessuali, io ero assolutamente un somaro, proprio completamente ignaro che esistessero, se non nel codice dogmatico e moralistico che avevo studiato nei 5 anni di facoltà, tutto peccato, tutto. E poi l'incontro con le persone mi ha svelato che l'amore non è quello che nel mio pregiudizio io pensavo. Gli anni 63-64, gli anni dell'ascolto intenso che ho continuato e continuo tuttora, mi hanno svelato che l'amore ha mille volti, è sempre un dono di Dio. Bene, quindi io vivo questo in una maniera in cui ho sofferto anche, pensando agli studi che certamente molti di voi conoscono, di Gignola Fragnito, che cosa non ha fatto il potere per impedire nei secoli la lettura della Bibbia. Quando nei circoli feminarum a Parigi, nei secoli, no, le donne si organizzarono per trascrivere tra di loro e far circolare le scritture, che cosa non è avvenuto? Questo piccolo libro, edito tanti anni fa, per me è stato un gioiello di documentazione di tutte le forme repressive perché le persone non avessero l'accesso diretto alla scrittura, no? E quindi è stato per me un elemento. Ma se voi prendete in mano il catechismo, sapete che sono stato tanto criticato perché in questa lettera con cui finisco l'ultimo libro che ho scritto, Confessione di fede di un eretico, dico che il catechismo andrebbe ritirato, se non altro per decenza. Ma ogni volta che in comunità parlo di queste cose, e nelle varie comunità, e devo dire nella mia diocesi, trovo più accoglienza, sarà per la mia età, e penso, ho riportato qui che cosa dice il catechismo sulla Trinità. È tutto secundum scripturas. Ma voi ve lo leggete? Mi date il tempo di leggere qualche versetto? Perché anche un po' di ironia va bene nella nostra vita. La Trinità è una. Noi non confessiamo tre dei, ma un Dio solo, in tre persone. La Trinità consustanziale. Le persone divine non si dividono nell'unità della divinità, ma ciascuna di esse è tutto intero Dio. Il Padre è tutto ciò che è il Figlio è tutto ciò che è il Padre, lo Spirito Santo è tutto ciò che è il Padre. Tutto di Dio c'è nel Figlio, nel Padre e nello Spirito Santo. Dunque questo continua a ripetere per 30 versi e per 19 capisaldi che cosa vuol dire questa affermazione. Ho portato questo esempio però per dire che per me è oggi impossibile aderire a questo linguaggio liturgico, per esempio, morto per i nostri peccati, come se Dio avesse bisogno dell'espiazione, ma credo che l'espiazione in senso ebraico sia un'altra cosa, non sia il dare il sangue, no? Ma qui non sono così competente da poterlo dire. Ecco, allora, io non accetto che si debba dire magari avverrà un'evoluzione su queste dottrine. No, non accetto. Non accetto che nelle chiese la predicazione sia sempre maschile, non ci sia la voce delle donne. Non l'accetto più. Non posso pensare che questo viene da Dio. E quindi ho detto che queste mie idee, comunque le dico chiaramente. La mia prima riflessione si ferma qui. Quando mi fu chiesto davanti ai giudici che cosa ritrattavo queste posizioni, ho detto no. Voi sapete che la Chiesa ha tanti metodi, prima ti impaurisce quando sei giovane, io ho cominciato molto giovane a essere abolito 54 anni fa, ebbene poi c'è l'offerta del denaro, dei posti, puoi scegliere quello che vuoi pur di avere il silenzio. Una cosa che mi ha molto confortato a procedere, e devo dire grazie molto ad Hans Kunz, che da giovane incontrai in varie lezioni e mi esortò a continuare nelle posizioni eretiche, come dire. La seconda cosa, e poi non voglio prolungare oltre, la seconda riflessione, che forse vi sembrerà assolutamente irrilevante, è che l'itinerario che ci condusse in modo definitivo dal IV secolo a fare del cristianesimo una religione separata dall'ebraismo a me pare privo di consistenza. Che cosa devo dire? Ero molto giovane quando conobbi il teologo di cui non osai fare nei miei libri la citazione, perché avevo già sufficiente grane e ho avuto anch'io le mie ipocrisie e le mie mancanze di coraggio. E devo dire, nel 67 incontrai questo grande teologo Stendhal, certamente ora morto. Le opere di Stendhal furono poi coraggiosamente almeno recensite in questo libro di Rentorf, Cristiani ed Ebrei Oggi, che molto, molto vi raccomando. Stendhal prese contro Schleiermacher e contro Harnack la posizione di petto la posizione di Harnack, che l'ebraismo è morto. Quando siamo nati noi cristiani, l'ebraismo è morto. E sapete la patristica del superamento, del compimento, noi siamo l'alba, loro sono al tramonto, eccetera. Questo libro documenta, nelle pagine della seconda parte del libro, tutto questo grande arsenale che anche Bulman riprese, no? Noi cristiani siamo arrivati a completare ciò che l'ebraismo aveva iniziato. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato tutti i testi delle scritture della Bibbia ebraica come preparatio evangelii. Questa è la grande discussione. Le opere di Stendhal, che poi ho seguito per tutta la vita e che qui vengono sintetizzate in un modo meraviglioso. Forse la Claudiana non se n'è nemmeno accorto di aver pubblicato un libro così eretico, eh? Certe volte succede. Ebbene, dice semplicemente: qualcosa andò per storto, poteva andare diversamente, che noi fossimo degli discepoli del Nazareno dentro l'ebraismo. Sapete che il mio processo fu, per questo mio libro, il dono dello smarrimento, dove dissi: io non credo più che dobbiamo separarci dall'ebraismo, ma penso che siamo tre quartieri di una stessa città. I quartieri hanno le loro differenze, le loro peculiarità, ma non siamo città. Non vi dico i libri meravigliosi che sono usciti in Italia 30 anni fa, ma poco conosciuti: Carmine di Santi, Carucci, Garrone, dove, come sapete, la sinagoga era la donna cieca, poi eravamo noi la donna invece che vedeva, no? E quindi questo libro meraviglioso, Ebrei ed ebraismo nel Nuovo Testamento, va molto oltre il titolo e sunteggia questa domanda e questo interrogativo che Stendhal ha elaborato nelle sue opere, che io ho ripreso in questo mio libro, ma non mi soffermo su questo scritto, che ho tenuto 24 anni nel cassetto e poi nel 2000 mi sono deciso a pubblicarlo, quando ero già al terzo processo e ho capito che potevo ora sparare quello che pensavo, tanto le cose erano finite. Bene, io vivo con questa speranza che ho scritto nel mio libro Il dono dello smarrimento, appunto, e che ho ritrovato in un libro che molto vi raccomando: Il cristianesimo, Gesù e la modernità, il libro di Mauro Pesce. Sentendo in questi giorni Mauro, dicevo: questo è il libro della tua memoria, davvero, dei suoi 40 anni di studi accademici sulla figura di Gesù. Ed ecco qual è la sua conclusione. È Stendhal. Lui dice come è avvenuto che abbiamo rotto un patto che potevamo ottenere una identità nelle nostre differenze, una identità nella fede. Per lui, come voi sapete, la ricerca storico-critica ci dice che Gesù ha mai pensato di essere Dio, Gesù non si è mai pensato uno dei membri della Trinità, e Gesù ha pensato totalmente di essere un ebreo, ma da quel poco che conosco anch'io, mi scuso col rabbino, dell'ebraismo, tanto si è credenti quanto si è disputanti, quindi Gesù ha discusso. Allora, la mia ultima considerazione, ho finito il mio tempo, è che io oggi sento che abbiamo la voglia di lanciarci e di accettare le domande scomode, oppure verniciamo. Ma il tempo potrebbe essere questo, il Kairos, potrebbe essere proprio Dio che ci chiama a riconsiderare alcuni punti scomodi, uso le parole di Stendhal. Potremmo ripensare anche ai tempi dei nostri primi secoli. C'è molto da ripensare prima di Nicea, dopo abbiamo solo ripetuto Nicea e Calcedonia. Ripensiamoci. Ma voi sapete, vengo da una terra ecumenica, Pinerolo, una bellissima ecumenica, tra Valdesi, Battisti, ma non si può discutere prima di Nicea. Tutti d'accordo, uno che manda il pane all'altro per l'Eucaristia, una genialità, una fratellanza enorme, ma che non si tocchi Nicea. Gesù è Dio, soprattutto Dio, tutto Dio, la Trinità, eccetera. Quando si pongono queste domande, che ora la storiografia in una maniera incredibile, ma che nessuno legge, pone, allora l'ecumenismo cessa, o meglio, la pattuizione comune. Io sono fortunato perché vengo da una diocesi che ha un vescovo straordinariamente aperto, ma la pattuizione esplicita, esplicita, a me confidata, è che quei punti non si toccano. C'è un patto tra Chiesa della Riforma, Chiesa Cattolica, che non si va oltre questi punti di interrogativo che invece Pesce ed altri pongono, riprendendo tutti questi interrogativi così sentiti e che a mio avviso oggi sono nodi ecumenici da affrontare con umiltà ma anche con audacia. Vi ringrazio della pazienza. Dei nostri intendimenti, perché molto spesso negli incontri tra diversi esponenti di diverse fedi religiose si cercano i momenti di convergenza e non si cercano quelli di attrito. Noi programmaticamente abbiamo invece incoraggiato, non sempre ci siamo riusciti, questa volontà di uscire un po' dai complimenti e essere anche quindi ruvidi nel esporre le proprie idee, quelle della propria comunità. Questo al di là del fatto che poi si riesca nel tempo dell'esistenza a risolvere problemi che hanno una tradizione millenaria. Allora, il dottor Riccardo Insegni, che è il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, vicepresidente, se non sbaglio, della conferenza rabbinica europea, direttore del collegio rabbinico italiano, vicepresidente del comitato nazionale della bioetica e che è autore di numerosissime pubblicazioni sui temi specifici della letteratura talmudica, paleografica, ebraica, eccetera, ma anche appunto di bioetica, di relazioni interreligiose, anche del tema della città dello Stato. Grazie. Bene, grazie per questo invito. Esporrò in pochi minuti un po' di flash, più che un discorso organico. Allora, mi baso su questa presentazione che è circolata, sulla quale vorrei fare delle osservazioni. Intanto qua sorge una sorta, viene tutto praticamente definito come una sorta di opposizione tra il sacro e il non sacro, quindi un'opposizione dualistica tra la sfera, tra virgolette, laica e quella religiosa. E il primo messaggio che vorrei mandare è che per quanto riguarda la Bibbia, mi riferisco alla Bibbia ebraica, quella che qua con un termine vetusto e non tanto rispettoso si chiama del Vecchio Testamento, la Bibbia ebraica, quando parla di questi argomenti, ha non due poli ma ce ne ha tre, una sorta di trinità, ma tutt'altro di quella di cui abbiamo parlato fino adesso. C'è una persona che ha assunto su di sé questi tre poli del, chiamiamoli, del potere, ma è durato soltanto un anno questa assunzione. Questo è Mosè. Mosè per un anno è stato re, sacerdote e profeta. I poli sono tre: regno, sacerdozio e profezia. E questo spiega come nella concezione biblica l'istituto del potere. Il regno è il potere dello Stato. Il sacerdozio è la gestione delle cose religiose, dei riti, del santuario, del tabernacolo nel deserto. Soltanto il sacerdote può accedere, soltanto il sacerdote può fare determinate cose, ha una funzione espiatoria e così via. Va rispettato, si veste in maniera particolare, ha delle norme sue specifiche. Tutto ciò ha a che vedere con la religione, ma fino a un certo punto, perché quello è un aspetto della religione, e il re deve essere ben distinto dal sacerdote. Difatti c'è stato un periodo della storia nel quale i sacerdoti sono diventati re, e questo è successo dopo la rivolta degli Asmonei, e per cui c'è stata una dinastia che è durata fino a Erode, poi è stata praticamente massacrata, ma quindi erano sacerdoti, e quindi si è creato una sintesi impropria. Il re deve essere discendente della casa di Davide, non a caso il Messia deve essere discendente dalla casa di Davide, ma quello è il re della storia. Ora, questi due poli da soli non bastano, perché lo spirito vitale non viene né dall'uno né dall'altro. Tutto è importante. Lo spirito vitale è quello della profezia. È la profezia quella che viene a dare gli input reali, è quella che viene a correggere, è quella che viene a cambiare le degenerazioni, sia dello Stato che del sacerdozio. Sono i profeti quelli che bacchettano le persone, e la bacchettano non nel senso dell'infedeltà religiosa generica, non hai commesso quel rito o quell'altro o sei un idolatra, no, e bacchettano nel senso prima di tutto politico e sociale. E noi abbiamo appunto dal messaggio biblico una molteplicità, una varietà di argomenti di intervento, in cui chiaramente la sfera religiosa è mescolata con quella politica. Qual è il confine tra politica e religione quando Isaia dice che il digiuno che desidero è quello di abbattere le catene? Cosa sta facendo, un discorso politico, un discorso religioso? Allora, i confini qua sono marcati, ma c'è bisogno proprio di un terzo intervento, di una terza parte che faccia questo. Il problema è che noi da tempi remoti non abbiamo più la profezia. Allora, chi sono i profeti e chi si assume questo ruolo? Nessuna delle religioni del libro è in effetti immune da violenza, guerra e sopraffazione, meno male. Io ho dovuto partecipare a Tortocollo a innumerevoli convegni e religioni e pace, quanti ne abbiamo fatti insieme? Vabbè. In cui tutti quanti a recitarsi addosso, perché noi siamo per la pace, noi per quello, noi per quell'altro, no. Io ho sempre sostenuto il fatto di essere fedeli a una religione, rappresentanti di una religione, eccetera, eccetera, non significa automaticamente essere pacifisti, non significa essere contro la violenza, no. La pace alla quale le religioni tendono, è la pace dello spirito, la serenità interna, ma è ben differente dalla pace nel senso di assenza di guerra e così via. Non necessaria, è un'altra cosa. E trasformare le religioni da da quello che sono nella loro complessa natura, in automatici giocattoli che fanno la pace, è una falsificazione grossolana. E in questo brano c'è un'ontologia di prassi biblici nei quali si vuole dimostrare che il Vecchio Testamento è un libro pieno di violenza. E se l'avessi fatta io questa antologia l'avrei fatta molto meglio, va bene? Perché queste sono citazioni a sproposito. Per esempio, quando dite il padrone può anche percuotere lo schiavo senza pietà perché questo è acquisto del denaro, Esodo 21:21, però avete dimenticato di leggere il verso 25 e 26, non è tanto lontano, nel quale è detto che se il padrone procura una lesione permanente che sia la caduta di un dente al suo schiavo, lo schiavo acquista la libertà. Io vorrei sapere in quale sistema legislativo dell'antichità o anche dell'epoca moderna si è mai applicata una legge del genere. Allora, quando citiamo la Bibbia, per favore facciamolo in maniera controllata. Ok, questo non vuol dire che ci sono brani di violenza, quanti ne volete, ma ci sono anche dei brani straordinari, non di pacifismo, ma di costruzione di una società giusta, c'è tutto quanto. E l'altro errore metodologico fondamentale è che non si può considerare un'esperienza come questa relegata alla lettura letterale di un brano biblico, almeno dal punto di vista ebraico questo non è assolutamente possibile. Ci sono da 33 secoli fa a oggi montagne di elaborazioni, e le elaborazioni ricostruiscono e smontano, ammorbidiscono talvolta, altre volte rendono ancora più duro il messaggio, ma il discorso è estremamente complesso e non si può esaurire nella citazione estrapolata di qualche cosa. Un messaggio che è interessante trasmettere in questa sede è decisamente una semplificazione, ma è una bella provocazione, quella che ha fatto Rav Jonathan Sacks, che è stato il rabbino capo del Commonwealth, che ha lasciato tanti libri, sono anche reperibili in italiano. E parlando delle rivoluzioni che hanno segnato l'era moderna, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, la rivoluzione inglese e la rivoluzione americana. Ci sono queste quattro rivoluzioni che hanno cambiato i destini del mondo, soprattutto la società occidentale. Queste quattro rivoluzioni, due di queste, lui dice, hanno provocato essenzialmente violenza e distruzione, e sono la rivoluzione francese e la rivoluzione russa. Regimi autoritari, guerre nazionali e così via. Altre due rivoluzioni sono state, chiaramente ogni rivoluzione non è un gioco, sono state all'epoca cruente, ma hanno creato delle società democratiche stabili fino ad oggi. Cioè la democrazia del mondo è dovuta a questo. E qual è la differenza tra queste due tipologie, dice Rav Sacks, è che le prime due sono state alimentate dal pensiero filosofico e le altre due, quella inglese e quella americana, sono state alimentate dal pensiero biblico. E è una semplificazione, è una provocazione, ma questo per dire che là noi ci possiamo trovare, dipende come. Come ci lavoriamo, ci possiamo trovare delle sollecitazioni estremamente importanti per l'attualità. La domanda finale che viene fatta in questo testo è una domanda che ci coinvolge a tutti quanti: le religioni politiche del primo Novecento, i disastri che hanno creato. Adesso andiamo incontro alle religioni politiche, no, oggi forse più banalmente, almeno da queste parti, credo che si vada incontro a uso semplificato degli strumenti religiosi, è stato fatto un esempio nella sua introduzione. La religione conserva il suo posto e non può essere cancellata, e deve avere necessariamente il suo spazio. Ogni società si è costruita un compromesso, il modello francese della laicità non è applicabile all'Italia, e non bisogna assolutamente confondere tra l'altro laicità con democrazia, sono due cose completamente differenti. Ci sono stati dei regimi dittatoriali estremamente laici e la democrazia può non essere laica. Immagino alla legge che ha retto a un referendum in Italia, ma che è stata poi smantellata con sentenze della Corte Costituzionale, quella sulla fecondazione assistita, che non era assolutamente una legge estremamente democratica, ma assolutamente non laica, vabbè, ispirata a un modello religioso particolare, per cui la navigazione è sempre complicata. Quindi la domanda rimane, e dobbiamo capire come contribuire insieme a questo dibattito, per cui è stato importante stare qui con voi oggi. Grazie. Grazie molto. Naturalmente, vista l'autorità del precedente relatore, come si dice a Roma, non ci ingarelliamo nell'esegesi della Bibbia ebraica, perché cederemmo sicuramente. Sulla questione della rivoluzione americana inglese ho i miei dubbi. Sulla questione degli stati che riconoscono all'interno delle loro carte o leggi costituzionali, diciamo, un ruolo particolare alla religione, quello hic Rhodus, ma su quello, diciamo, credo che ci saranno anche interventi e poi sicuramente le conclusioni di Giacomo. Io direi Francesca Maria Corrao, che è ordinario di lingua e cultura araba alla LUIS, si occupa, oltre che di cultura, di politica islamica, dell'Islam in Europa, si è occupata dell'immigrazione, dell'integrazione, della sicurezza, di studi sull'area mediterranea, ha scritto e curato recentemente volumi e articoli che riguardano proprio l'Islam, la religione e la politica, l'Islam, lo Stato e la modernità, l'Islam e il terrorismo, l'emergenza migrazione in Europa e altre cose. Grazie. Grazie. Allora, io innanzitutto ringrazio tantissimo per l'invito, mi dispiace proprio tanto di aver perduto le occasioni di incontro precedenti, mi piace molto l'idea che appunto non sia una conferenza, quindi la mia non è una conferenza, una relazione, è semplicemente una risposta alle sollecitazioni che venivano dalla presentazione. E adesso ovviamente grazie alle riflessioni di chi mi ha preceduto mi sono venute altre idee, perché io lì ho scritto già 7 paginine belle, pulite da distribuire eventualmente, e quindi diciamo, anche se sono un po' delle riflessioni messe in ordine secondo una logica, sono fuori dal contesto del dibattito, diciamo, che voi siete via via venuti a costruire, quindi mi scuso se faccio un discorso un po' diverso. Io per molte ragioni mi sono spesso trovata a dover fare dei confronti tra religioni diverse, tra culture diverse, tra letterature, non essendo una, come dire, né una musulmana, né un'ebrea, né una cristiana, quindi ogni volta mi trovo nella condizione in cui Rav Di Segni prima diceva, che è molto vero, no? Cioè quello di estrapolare una frase perché ci piace e poi però in effetti il contesto questa frase la cambia. Diciamo che anch'io faccio così, no? Un po' per educazione, cioè nel senso che io, essendo stata formata come studiosa di lingue orientali, noi usavamo ricorrere sempre alla lettura del Corano o delle frasi del Corano per poter contestualizzare poi quella spiritualità, quella forma mentis che trovavamo dietro a un pensiero di un filosofo piuttosto che di un politico, soprattutto leggendo la modernità, no? E proprio una delle accuse più forti che vengono fatte ai fondamentalisti è proprio di fare questo, cioè di prendere una frase dal Corano tolta dal contesto storico, ma anche dall'interpretazione fatta dagli esperti di religione islamica nei corsi dei millenni, e dando interpretazioni che non si ricollegano in nessun modo a quello che è il percorso di fede di una comunità che poi comunque è molto variegata, anche se ha delle linee di condivisione molto importanti. E io, fatta questa premessa, vado a toccare quei due o tre temi che mi ero prefissa di ragionare su questi argomenti con voi, e mi aveva colpito quella frase che dice: nessuna delle religioni del libro in effetti è immune da violenza, guerra e sopraffazione, che mi fa piacere che abbia colpito anche il disegni, ma io la vedevo da un'altra parte, la vedevo da una parte, cioè, come dire, nessun essere umano, no? Non è colpito da rigurgiti di violenza, voglia di uccidere o voglia di sopraffare. Quindi il problema fondamentale e il ruolo che ha la religione è quella di regolare le intemperanze degli esseri umani, no? Perché questa poi è la differenza fondamentale tra noi e gli animali, anche se appunto anche gli animali ogni tanto hanno qualche, come dire, qualche riguardo, no? Per esempio, un cane tormentato da un bambino, non è sempre detto che il cane morde il bambino, ma insomma che poi ci siano tanti uomini che in guerra uccidano i bambini in nome della democrazia, della libertà, della fede, insomma in nome sempre di qualche cosa di astratto, ci dovrebbe appunto fare riflettere su un problema su cui io vorrei riflettere oggi, cioè che ruolo può avere oggi un intellettuale laico e un intellettuale religioso o una persona di fede per poter dare delle risposte di speranza a una società che vive sicuramente una fase, sta attraversando una fase di nichilismo preoccupante, perché annienta qualsiasi domanda di senso, cioè perché viviamo, perché soffriamo, cioè ormai non soffre più nessuno perché tutti quanti prendiamo anestetici in tutti i modi a tutte le ore, la sofferenza non esiste, e la morte, la malattia, l'invecchiamento, che sono dei problemi che colpiscono qualsiasi essere umano al di là della fede che questo possa avere, ci accomunano. E allora dobbiamo andare un po', secondo me, a costruire insieme, a cercare di costruire un nuovo umanesimo, a darci delle risposte su cui concordiamo tutti, indipendentemente da quello che pensiamo. Perché poi fede e potere, ma come si può distinguere la fede dal potere, se il potere, come diceva Barbero, no? è quello che, come dire, va a utilizzare spesso anche la fede delle persone, la debolezza delle persone per sopraffare le persone, anche della propria stessa fede, non necessariamente di un'altra, ecco, quindi non è questo il problema. Ecco, appunto, per esempio le donne, giusto così, per parlare di una cosa che chiaramente mi riguarda in maniera diretta, no? Ma non è che i laici siano meno misogini, per carità, ma proprio no. E che gli intellettuali siano emancipati, meno che mai. Per fortuna non abbiamo di queste distinzioni. Siamo tutti ugualmente in difficoltà quando ci si trova di fronte a un pensiero altro, a un pensiero diverso. È quello il problema. E, un'altra fase, quindi quello che io vorrei è, d'accordo, siamo tutti ricchi di capacità di essere buoni, compassionevoli, ma anche purtroppo violenti, aggressivi e prepotenti. Quindi cerchiamo di usare il buonsenso, di trovare delle parole chiave in comuni che ci portino di nuovo verso un nuovo umanesimo, come dicevo prima, che poi insomma è stato in qualche modo in Italia Pico della Mirandola a introdurre questo termine, ed era grazie agli studi e alle traduzioni fatte da ebrei e musulmani che sono stati orrendamente cacciati via all'epoca della Reconquista. Ma stiamo attenti, perché siamo di nuovo nella stessa situazione di prima, e sino a che non ce ne rendiamo conto ripeteremo gli stessi errori, li stiamo ripetendo. Allora, siccome invece abbiamo degli strumenti, cioè la fede ma anche i principi della rule of law impongono dei limiti che vanno conosciuti, che vanno diffusi, che non devono essere troppo lontani dalle persone comuni, dai ragazzi soprattutto, dai licei, dalle scuole. E un'altra domanda, per esempio, un'altra frase mi aveva colpito quando si parla appunto: l'Occidente nella sua storia ha imparato a tenere a bada il sacro senza scacciarlo, e questa è la nostra conquista della laicità. Ma appunto, come si diceva prima, ma la laicità ha impedito operazioni di pogrom o di sterminio? No, e quindi non è la virtù assoluta che garantisce la pace nel mondo. Poi sicuramente la pace del mondo è un'utopia, ma forse è possibile migliorare le condizioni degli esseri umani. Mi piace citare due filosofi che in qualche modo mi hanno accompagnata nella difficoltà del percorso quando mi trovo a confrontarmi con culture diverse, no? Per esempio, Norberto Bobbio, negli ultimi anni della sua vita, lui si professava assolutamente agnostico e tuttavia era colpito dal mistero della morte, e quello che lui riteneva fosse estremamente importante era riflettere insieme su certi misteri e su come affrontare la sofferenza, la morte. E lui diceva: la superficialità è quello che ci allontana, la paura di affrontare questi temi. Invece questi sono temi che andrebbero affrontati. Il discorso appunto della superficialità è particolarmente importante in questo momento, perché per esempio lui sosteneva che questa superficialità ci porta a proteggere le nostre certezze personali. Le nostre certezze personali, che in realtà poi sono dei fenomeni transitori e che possono cambiare, che se noi siamo convinti di mantenerci come dire, inamovibili nelle nostre certezze, poi per proteggerle finiamo nel fascismo, perché non accettiamo il dialogo con qualcuno che ha un pensiero diverso. E questa stessa superficialità, no, che è l'elemento che allontana dalla ricerca del vero, è un argomento che Hannah Arendt, per esempio, tirò fuori quando andava ad esaminare, tra le tante ragioni, ovviamente, io sto cercando di semplificare per ragioni di tempo, quelle che erano le cause a monte dei crimini che accadono anche oggi e di ieri e dell'altro ieri, no? Le notizie continue di bombardamenti, di morti, di ingiustizie, di sopraffazioni, e la cosa impressionante è che sino a 40 anni fa ci si indignava per quello che succedeva in Vietnam o nel Kosovo, adesso c'è soltanto la preoccupazione per gli immigrati. E questa è invece di essere una preoccupazione di accoglienza, che poi il diritto all'accoglienza sta tanto nella Carta dei diritti dell'uomo quanto allora non le cito più la Genesi, nel Levitico, no? Se ne parla tantissimo del forestiero, del dovere di accoglienza, no? Che è l'unica legge per regolare la vita civile. E beh, dico, questi sono temi seri, e su questi io sono convinta che le persone di buona volontà si trovano tutte d'accordo, e quindi è facile, no? È il potere che ci impedisce di riflettere sui veri valori della vita. Ma allora fermiamoci un attimo e torniamo al tema serio: la dignità e la sacralità della vita, punto. Il resto sono chiacchiere. Perché se noi non ci troviamo a difendere gli elementi, proprio il cardine della nostra dignità di esseri umani, rischiamo di perdere tempo prezioso e non ce lo possiamo permettere. Io non me lo voglio permettere. Cioè, dobbiamo ragionare per costruire una nuova filosofia basata sul rispetto della dignità intrinseca della vita, di ogni vita. Cioè, dobbiamo iniziare a pensare a una nuova cittadinanza. Non ha senso tornare su vecchie tematiche, perché non danno delle risposte ai ragazzi. E tra l'altro questo dovere, no? del rimettere al centro la dignità della vita non è una cosa che mi sono inventata io. C'è addirittura Bertrand Russell e Einstein, che nel manifesto del 1955 scrivono che la crisi economica porta a mettere l'interesse economico prima dell'interesse umano, e non va bene, è l'essere umano al centro, non il profitto per lo sviluppo. Dunque, di quale modernità stiamo parlando? E vi leggo, per chiudere, una poesia di Adonis, perché ovviamente quando io mando il mio CV in argomenti di tipo politico, sto bene attenta a togliere il mio interesse per la poesia, perché sennò pensano che non sono una persona seria. Allora, Adonis è un poeta siriano, odiato da tutti i poeti perché ha preso delle posizioni molto scomode, perché lui era contrario all'inizio della rivolta in Siria, perché sapeva che sarebbe stata una strage, e purtroppo, come sappiamo, come la fine di Cassandra, dire la verità non sempre va bene. Allora, lui era stato invitato nel 2008 a Napoli, dal Napoli Europa Festival, per scrivere un poema su Napoli, e lui era innamorato di Napoli perché vedeva che Napoli è una città aperta dove ci sono tante persone di provenienze culturali diverse e riescono a coesistere, e quindi incontrava in questo suo immaginario viaggio per Napoli vari personaggi della politica e del pensiero italiano, e tra questi Marinetti. E scrive: Napoli si desta, il mare mediterraneo che di te si inebria. A Marinetti chiedo: cos'è il tempo? Cos'è la modernità? Grattacieli su cui sputano nuvole migranti? E la balbuzie che domina la lingua della politica? O è l'oppio di macchine gracidanti come rane nel lago del cuore? È la violenza che striscia come cancro nel corpo umano? È la barbarie che domina andando per le vie del mondo? Marinetti, la modernità è nell'amore, non è nella guerra, è nello spazio, non nelle scarpe. Ecco, questo è interessante. Sì, ma non l'ho portato con me il testo, mi dispiace. Sì, è molto bella in arabo, certo. È terribile, perché insomma lui l'ha scritto nel 2008, quindi tanto tempo fa, quando il problema della migrazione non era così forte come oggi, no? E poi mi piace ricordarvi due personaggi che hanno fatto due interventi molto interessanti su questo tema del cosa fare. Uno è Bruno Forte, che dice che la sfida per il futuro è nel dialogo, nell'educazione, nel costruire insieme una casa comune che porti a un coinvolgimento più ampio delle coscienze, per uscire dalla logica di chiusura e di interessi egoistici. Un altro, un filosofo pedagogo giapponese, Makiguchi, il quale ritiene sia necessario mettere in grado le persone di valutare l'impatto del loro comportamento e consapevoli del potere di incidere nell'ambiente. Tutti parlano della responsabilità di commettere il male, ma non si pone abbastanza enfasi sulla responsabilità di non commettere il bene. Ecco, quindi questi sono due riflessioni interessanti, e poi un'ultima sul tema della sicurezza, di cui tanto si parla, ma purtroppo soltanto in termini molto astratti, quando poi finisce per essere la sicurezza dello Stato. Ma è la sicurezza delle persone? Di nuovo, la dignità, i diritti delle persone, rispettano, garantiscono, assicurano la sicurezza, ma allora perché si suicidano 400 ragazzi all'anno in Italia? Perché ogni 3 giorni in Italia viene uccisa una donna? Di quale sicurezza stiamo parlando? Ecco, la fede fa molto quando sono d'accordo, quando non fa gli interessi del potere. Però è vero anche che ci vogliono dei profeti, e allora forse dovremmo essere tutti profeti e ritrovare un po' di spiritualità. Grazie. Grazie. Sì, nella nostra testo bersaglio avevamo anche noi cercato di dare una lettura del pensiero politico mainstream, diciamo, dell'Islam, non in senso convenzionale, e appunto quindi cercando di vedere come la fondazione della politica e l'idea dello Stato e della democrazia potesse essere anche nella cultura, anzi sia, non potesse essere, anche in illustri studiosi islamici sia interessante. E per aprire al prossimo relatore, che è Massimo Borghesi, vorrei dire che il problema fondamentale nel preparare questo incontro che ci siamo trovati davanti è quello che nel pensiero italiano, diciamo politico italiano, è il problema della teologia politica. Cioè, lo abbiamo già affrontato quando abbiamo parlato dei diritti e abbiamo messo in questione oppure valutato i pregi di una fondazione dei diritti fondata sull'idea della persona a immagine e somiglianza di Dio, quindi una fondazione teologica del diritto. Nel caso del potere abbiamo una lunga tradizione che è anche all'interno della sinistra anarchica, che a partire dall'idea che tutte le categorie della politica abbiano una fondazione teologica, che si esprime soprattutto nella sospensione legittimata dallo stato di guerra, critica lo Stato insieme alla fondazione teologica della politica. Al di là, diciamo, di questi aspetti astratti, su cui forse ci parlerà anche Massimo nel prossimo intervento, abbiamo comunque un potere, abbiamo comunque un problema che è un problema, se volete, di carattere empirico o storico, cioè nel fatto che, appunto, che per esempio nell'Islam, forse la Tunisia, che io sappia, poi forse il dottor Redwan, che abbiamo l'onore di aver qua, ci dirà meglio più tardi, però lì, diciamo, la deduzione del potere e il rapporto dal potere e la gerarchia, non so nemmeno se si può parlare di gerarchia, perché non c'è gerarchia, diciamo, nell'Islam, pone dei problemi, ecco, quindi, diciamo, al di là poi delle proiezioni. E a questo proposito io volevo chiamare appunto Massimo Borghesi, che è ordinario di filosofia morale all'Università di Perugia, membro del Consiglio Scientifico e del Comitato Editoriale di numerosissime riviste, che si è occupato, tra le altre cose, prego, del pensiero di Augusto Del Noce, di Guardini, di Giussani, del pontificato di Benedetto XIV, della formazione intellettuale dell'attuale pontefice, di ateismo e poi di teologia politica, anzi di critica della teologia politica, da Agostino a Peterson. Prego. Grazie. Buonasera, grazie dell'invito alla Fondazione Basso, grazie a Gianni Giannoli che ho rivisto con molto piacere dopo tanti anni, ancora ci riconosciamo, quindi va bene. Bene, io mi attengo al tema appunto questo di fedi e poteri e dico una cosa banale se affermo che oggi è un tempo di disorientamento, no? È assolutamente un'affermazione banale. Forse è meno banale se osserviamo che ciò significa che non abbiamo più le categorie adeguate per pensare il nostro tempo. E il motivo è chiaro di questo. Noi, i due modelli che hanno orientato la riflessione dopo l'89, dopo la caduta del muro di Berlino, i due modelli che abbiamo usato per l'era della globalizzazione sono in crisi. Il primo modello è stato quello di tipo illuminista, hegeliano, per cui con la fine del comunismo entravamo nella fine della storia, entravamo nell'era della democrazia compiuta, nell'era della fine dei conflitti, quantomeno all'interno del grande Occidente. E come loro sanno, l'opera di Francis Fukuyama, The End of the History and the Last Man, la fine della storia e l'ultimo uomo, era il manifesto, è stato nel 92, dell'età della globalizzazione. Ora Fukuyama si ispira ad Hegel, quindi Hegel è colui che ci permette di pensare la fine della storia intesa come la fine del conflitto. E quindi non è più il tempo della politica, è il tempo dell'economia che unificherà il mondo, no? Bene, questo modello è chiarissimamente in crisi, con l'illuminismo ottimistico che lo guida. Il secondo modello che è in crisi è quello che ha accompagnato sempre l'era della globalizzazione, che è stato il modello postmoderno, no? Il decostruzionismo della scuola francese, l'idea nicciana che entravamo nell'età dionisiaca, nell'età estetica, il postmoderno come era del mondo estetico. E l'era del mondo estetico significa la fine dei grandi valori, la fine delle ideologie, non c'è più bisogno, no? E quindi quest'idea levigata, piana, uniforme, tranquilla, poetica, pacifica, anche qui quante illusioni, no? Il nostro Gianni Vattimo ci ha accompagnato ed è significativo che il suo nome oggi non sia più al centro dell'attenzione. Per anni è stato il filosofo di riferimento di tanti, no? E la stessa fede in questa prospettiva era vista come affabulazione, la New Age. Ma vi ricordate la New Age e quanto spazio aveva, no? Fino poi con l'11 settembre 2001 è scomparsa la New Age, dalla sera alla mattina. Ma la New Age era la spiritualità soft del capitalismo globale e diffuso. Ebbene, queste due scuole di pensiero, questi due orientamenti di pensiero che ci hanno guidato negli anni 80 e 90, entrambi sono andati duramente in crisi dopo l'11 settembre del 2001. L'11 settembre rappresenta da un lato la crisi del modello della secolarizzazione, modello che era tornato potente negli anni 80 e 90, cioè l'idea che ormai la religione aveva fatto il suo tempo e che l'era tecnologica subentrava. Un nuovo paradiso in terra. Tant'è vero che nell'opera di Fukuyama la religione non ha quasi nessun rilievo, assolutamente ininfluente. E quindi proposta del modello post-secolare. Ci siamo sbagliati, non era vero che le religioni erano scomparse, non è vero che la società tecnologica porta con sé la scomparsa del religioso. Anzi, il religioso torna prepotentemente e anche violentemente sulla scena. L'altro modello che va in crisi è proprio il postmodernismo. Al suo posto vediamo anzi l'imporsi di movimenti fondamentalisti e quindi di verità forti, altro che il tempo della favola. Il mondo vero è diventato favola, secondo la famosa affermazione di Nietzsche. No, la verità torna, però torna come verità conflittuale, non come verità dialogica. Quindi la religione torna sulla scena nel cuore delle società avanzate, moderne, torna dentro la modernità, non ai margini della modernità, come l'antropologia, la sociologia degli anni 80 e 90 suggeriva. No? E torna contro il postulato della secolarizzazione. Torna non in una forma mistica o di rinnovamento spirituale, ma in modo dialettico, politico, proprio nel senso della dialettica amico-nemico di Carl Schmitt. Schmitt, che era stato autore di riferimento negli anni 70 con le varie teologie politiche degli anni 70, più o meno ispirate dal marxismo, che era scomparso dalla scena nell'era della globalizzazione, dopo il 2001 torna di nuovo come autore di riferimento. Non il dialogo ma la dialettica, non l'incontro ma l'identità negativa, polemica e divisiva. Questi processi di per sé sono comprensibili. Solo chi pensava la dimensione religiosa come premoderna, come storicamente oltrepassata, come transeunte, può sorprendersi di questi esiti apparentemente imprevisti. In realtà la dimensione religiosa è sempre latente, no? Chi non vede questo non capisce niente né della storia né della dimensione umana. È sempre latente e quindi può accendersi in ogni momento. Può diventare la linfa di moti secolarizzanti, come la teologia politica del messianismo marxista degli anni 70, che ha funzionato come motore della secolarizzazione. Era una mistica, ma funzionava come movimento secolarizzante. O può assumere al contrario le forme dell'islamismo radicale o di un messianismo democratico come nelle correnti teocon degli anni 2000. Un fatto accomuna queste rinascite del religioso, laico o fideistico che sia, ed è il fatto che esse sono determinate, suscitate, per lo più da eventi di rottura, di crisi. Il 68, la grande rivoluzione, contestazione, il 68 genera le teologie politiche degli anni 70. Un comunismo tecnicizzato e imborghesito, che era quello dell'Unione Sovietica degli anni 60, quello di Khrushchev, degli altri che si succedono, ritrova linfa nuova a partire da un pathos religioso che la crisi del 68 determina. E così il crollo delle Torri Gemelle nel 2001 restituisce respiro a posizioni che sembravano totalmente addormentate. Ogni volta è un crollo, una crisi, che determina una radicalizzazione e un ritorno del modello teologico-politico che sembrava addormentato e scomparso dalla scena. Allora, sia il messianismo laico che quello religioso rispondono a situazioni di crisi. L'esito è o una teologizzazione del politico, o, qui dimenticavo che abbiamo Marramao che è un maestro in materia, o una politicizzazione del religioso. Il rimedio, la terapia, però non è da pensare come nella sterilizzazione del religioso, perché di fronte a questi fenomeni c'è sempre chi si alza e dice: allora la religione è una patologia, eliminiamo, estirpiamo la malattia, cioè sterilizziamo l'elemento religioso, no? E così pensa per lo più l'illuminismo radicale. Per esempio, dopo il 2001 autori come Peter Sloterdijk, no? Il conflitto dei monoteismi, ha indicato questo: il monoteismo di per sé è violento, perché il monoteismo pretende di avere l'unica verità, e allora là dove c'è il monoteismo c'è l'intolleranza, e quindi la terapia è ripristinare il politeismo. Un politeismo è tollerante nella narrazione di Sloterdijk, no? La parabola dei tre anelli di Lessing. Ma, o anche Derrida, l'ultimo Derrida andava in quella direzione. Il problema sono i tre monoteismi. La guerra coinvolge non a caso Islam, cristianesimo ed ebraismo, no? Quindi il problema è andare al di là della pretesa della verità, no? Allora, in questa posizione, la neutralizzazione delle fedi come fine delle ideologie rappresenta in realtà l'essenza dell'era della globalizzazione. Quanto Sloterdijk e Derrida suggerivano era nient'altro che l'essenza dell'era della globalizzazione, cioè neutralizzare le differenze, ricondurle all'unica radice, che poi è il motore economico come ciò che unifica il pianeta Terra. La uniformità totalizzante del modello economico, il suo riduzionismo positivistico, tecnocratico, funzionalistico, spiegano la reazione delle varie fedi particolari, la reazione etico-religiosa che è il contesto presente. Quanto più l'universalità è astratta, tanto più suscita reazioni particolaristiche, tanto più il modello è di una, Papa Francesco dice, il modello è la sfera, quanto più il modello è la sfera che omogenizza, tanto più si creano le reazioni particolaristiche. Ed è quello che accade anche in Europa in questo periodo. Una unificazione europea con un modello unidimensionale suscita e scatena le reazioni particolaristiche dei vari populismi che si, no? E non a caso Francesco dice, il Papa dice, che il vero modello è il poliedro, perché il poliedro è l'unità nella differenza, perché il poliedro è l'unità che non distrugge le differenze ma le valorizza e le armonizza nella totalità. Allora non si esce dalla spirale illuminismo-religione, razionalità astratta e particolarismo, neutralizzando uno dei poli. È una polarità, non va neutralizzata. No? Quando nel 2013 ho pubblicato Critica della teologia politica, che Giannoli ricordava, il cui sottotitolo è Da Agostino a Peterson, la fine dell'era costantiniana, questo mi era molto chiaro. In realtà volevo titolarlo, no, pensando alla contrapposizione tra l'islamismo radicale da una parte e ai teocon dall'altra, volevo titolarlo Critica del manicheismo politico. Ma il titolo non era esauriente, no? La patologia odierna è la teologia politica, no? Che è diversa dalla teologia della politica, perché il momento teologico non può non occuparsi del momento politico e il momento politico non può non essere attento a quello teologico, per motivi che Jürgen Habermas nella sua ultima riflessione ha chiarito molto molto bene. Quindi non ho da aggiungere nulla su questo. Una patologia che attraversa tutte le religioni, pensiamo all'Islam, ma anche all'induismo nazionalista, ma anche alcuni settori dell'ebraismo in questo momento in Israele, ma anche a un certo fondamentalismo cristiano negli Stati Uniti, no? Quindi, e però è altrettanto vero che non ogni religione passa necessariamente attraverso la febbre del potere, no? Né l'intero Islam può essere ridotto all'islamismo, né l'ebraismo, né tantomeno il cristianesimo, vorrei dire quello cattolico in particolare, se mi è permesso, quello cattolico dopo il Vaticano II. Perché qui davvero il Vaticano II è lo spartiacque tra verità e potenza, no? La Dignitatis Humanae, che è, come sapete, è l'ultimo documento del Vaticano II, molto combattuta, c'è tutta una storia da cinema, è il grande documento sulla libertà religiosa. Ciò significa che la libertà, che la verità, non può affermarsi che nella libertà. Questo è il principio che dissocia la verità dalla potenza e dalla violenza, perché riconosce il principio soggettivo per cui, quando anche esista una verità unica, ognuno però ha il diritto di poterla cercare nella libertà, e nessuno può essere costretto a credere, nemmeno per il più grande dei motivi. Qui è il punto in cui la verità si dissocia dalla violenza, quando la libertà è la precondizione fondamentale per accedere alla verità. Ecco il punto cardinale del Vaticano II, il quale non è una rottura con l'intera tradizione della Chiesa, come accusano i tradizionalisti che, come sapete, non hanno mai accettato il Vaticano II, no? Ma costituisce un recupero della tradizione della Chiesa dei primi secoli. Nel mio libro sulla teologia critica della teologia politica mostro tutta questa pagina altamente ignorata e incredibile. Per 400 anni il cristianesimo dei primi secoli ha affermato il principio rivoluzionario della libertà religiosa per tutti. Mi è capitato ultimamente di assistere a una tesi di laurea, a una discussione di tesi di laurea, dove il professore, no, contestava allo studente il fatto che la Chiesa avesse mai affermato la libertà di religione. Quando lo studente gli ha detto, no professore, nei primi 4 secoli tutti i padri della Chiesa hanno affermato il principio della libertà religiosa per i cristiani e per i pagani e per tutti, dice, e lui ha detto no, l'affermavano solo per i cristiani. Quel professore è talmente ignorante che non ha letto minimamente 400 anni in cui Tertulliano, Lattanzio, Atanasio, Ilario, tutti, e anche l'editto di Costantino, che noi diciamo giustamente Chiesa Costantiniana, però l'editto di Costantino è un capolavoro di libertà, perché è libertà per i cristiani e per i pagani di professare la fede che credono. E l'editto di Costantino nasce insieme a Galerio, nasce insieme all'imperatore pagano, non è semplicemente frutto di Costantino, ma rappresenta bene la posizione della Chiesa dei primi secoli. È l'editto di Diocleziano, l'editto di Tessalonica del 380, che è il ritorno alla concezione della Roma, della concezione dell'impero romano, non più pagano ma ora cristiano. E quindi si ritorna al connubio tra teologia e politica, purtroppo. Ed è quel modello che poi attraversa il Medioevo, ed è quel modello che è la causa delle guerre di religione poi dopo la riforma di Lutero, perché se non ci fosse stato il connubio così stretto tra il potere dello Stato e la religione, il fenomeno Lutero sarebbe stato un fenomeno assolutamente tranquillo, una discussione interna tra ecclesiastici non avrebbe creato nessun problema. E non avrebbe spaccato l'Europa moderna. Allora, la grandezza del Vaticano II è che ritorna alla tradizione dei primi secoli, e tornando a quella tradizione incontra la modernità. Questo è il punto. La Chiesa finalmente abbandona il modello dell'antimoderno e si ritrova con la parte più vera della modernità, proprio riscoprendo la sua tradizione originaria. No? La verità nella libertà. Questo spiega perché il cattolicesimo, e quindi l'attuale Papa, sia l'avversario della riduzione teologico-politica della fede. Guardate che lo erano stati tutti, chi più chi meno, però anche Giovanni Paolo II si è opposto, vecchio e malato, in ogni modo alla teologizzazione del conflitto tra l'Occidente e l'asse del male, come lo chiamava Bush, perché gli americani volevano che il conflitto assumesse un volto religioso contro l'Islam, e il vecchio Papa in tutti i modi ha detto no, ed era isolato. Io mi ricordo benissimo quante, come tutti i giornalisti anche di casa nostra, hanno messo l'elmetto e hanno chiesto esplicitamente al Papa di schierarsi. E Giovanni Paolo II non ha dato l'unzione religiosa al conflitto contro l'Islam. D'altra parte era già stato criticato per l'incontro di Assisi, no? Con tutte le altre religioni, quante critiche gliene erano arrivate per quel famoso incontro di Assisi. Ma anche Benedetto XVI, nonostante fosse più moderato, però anche il famoso discorso di Ratisbona, che conteneva l'infelice frase su Maometto, che ha causato tanti problemi, ma se togliamo l'infelice frase su Maometto, il discorso di Ratisbona è bellissimo, perché dissocia la religione dalla violenza e dice che la verità può essere comunicata solo mediante la persuasione e non mediante le armi. Il discorso di Ratisbona è bellissimo se si toglie quella frasetta infelice che poi è passata alla storia per questo. E concludo, e mi pare chiaro che col Papa attuale questa dissociazione tra religione e violenza sia fortissima. Il documento di Dubai, che tu ricordavi giustamente, di grande rilievo, è uno spartiacque. Mai con l'Islam si è raggiunto un punto di incontro di questo tipo, mai da quando l'Islam è sulla faccia della terra. Questa è una svolta epocale, vorrei dire. Così come i gesti di questo Papa, il superamento anche della millenaria distanza con l'ortodossia, con la Chiesa orientale, sono gesti, se non fossimo attenti alle stupidaggini e ai particolari assolutamente, e cogliessimo questi passaggi epocali, capiremmo. Questo era solo per dire, e concludo, come in questo momento il Papa nel mondo è davvero l'ostacolo per tutte quelle concezioni politiche che vogliono una saldatura religiosa, perché noi vediamo il montare dei populismi, ventiamo questa ventata teologico-politica che viene dagli Stati Uniti, dalla Polonia, che attraversa l'Europa e così via. Cosa manca a questa ventata conservatrice? Manca l'imprinting religioso. Non hanno una forza sufficiente perché non riescono ad avere una legittimazione religiosa. E perché non riescono ad avere la legittimazione religiosa? Perché hanno un Papa che è il principale ostacolo da questo punto di vista. Da qui nasce l'odio sistematico di questi settori contro il Papa attuale. Grazie. Grazie Borghesi. Adesso Gaetano Lettieri, ordinario di storia del cristianesimo e delle chiese alla Sapienza, docente invitato, leggo, alla Pontificia Università Lateranense, alla Pontificia Università Antonianum e all'Institutum Pratiristicum Augustinianum di Roma, oltre che studi sul cristianesimo dell'origine, sullo gnosticismo, sulla eresia e la dialettica con l'ortodossia nel cristianesimo primitivo, sul giansenismo, sulla mistica cristiana, eccetera, si è occupato anche lui. Mortale, no, si è occupato anche lui di teologia politica dell'antichità classica al pensiero contemporaneo, sul rapporto tra cristianesimo, secolarizzazione, democrazia e laicità, e sullo statuto metodologico della storia del cristianesimo. Grazie. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per me è un onore parlare qui alla Fondazione Basso. Gli interventi che mi hanno preceduto sono stati molto densi e hanno fornito delle provocazioni. In qualche modo cercherò di rispondere. Vorrei partire provocatoriamente dal primo intervento, che dall'intervento di Barbero, in fin dei conti anche spiegando quello che è il mio lavoro. Cioè, io penso che il concetto di Trinità come il concetto di incarnazione, e quindi i dogmi della storia del cristianesimo e della storia della Chiesa siano irrinunciabili oggi come questioni, io dico filosofiche, da secolarizzare, sulle quali riflettere, che possono ancora conservare una riserva di senso e di significato da un punto di vista politico. Da questo punto di vista non sono d'accordo con le ultime affermazioni di Borghesi relative a Derrida. Io non restituirei affatto Derrida nel senso, no, di un pensiero disimpegnato e estetizzante. Il vero problema di Derrida, al contrario, è il problema della decostruzione non soltanto della storia della filosofia e della metafisica occidentale, ma dei grandi sistemi teologici, non per eliminarli, ma per discutere un problema etico irriducibile, che il problema non ha, o politico fondamentale, che è il problema della democrazia a venire. A mio parere non è un caso che la formula che Derrida ha utilizzato quasi sistematicamente, seppure da problematizzare continuamente, sia quella del messianismo e del messianico, cioè di una messianicità senza messianismo storico, o al di là del messianismo storico, che però era comprensibile soltanto attraverso le figure storiche. Allora il problema forse è questo, cioè noi abbiamo bisogno, per ripensare oggi alla nostra identità politica, alla nostra identità irrinunciabile democratica, non dimentico dove sto parlando, soltanto se riusciamo in maniera laica e in maniera però rigorosa da un punto di vista storico e scientifico a pensare l'eredità teologica per coglierne i complessi meccanismi di violenza e di decostruzione della violenza che sono all'interno di questa tradizione teologica stessa. Sono d'accordo con Borghesi come paradossalmente oggi la figura ad esempio di Papa Francesco, con quelle affermazioni sconcertanti per me che sono uno storico del cristianesimo, sono affermazioni pericolosissime da un punto di vista della storia del cristianesimo. Per quale motivo? Perché relativizzano quella che è la pretesa cristiana all'esclusività della rivelazione. E quindi, come dire, è una specie di identità cristiana che si è spinta al margine estremo della messa in questione della sua stessa identità storica. E allora noi dobbiamo riuscire ad intercettare queste traiettorie, anche magari capire quali siano gli elementi sostanzialmente, diciamo, attivi da un punto di vista ovviamente religioso, ma poi da un punto di vista politico e del nostro dibattito laico, politico e democratico, che si agitano al loro interno. Ad esempio, lo butto lì, conosco i lavori di Borghesi, lo stimo, la prima volta che lo incontro. Io tenterei di pensare una teologia della politica, non una teologia politica, per riprendere la sua distinzione, non tanto dal concetto, a partire dal concetto di libertà, che è il grande cortocircuito in qualche modo delle civiltà occidentali, ma da un tentativo complicatissimo di pensare alla nozione di carità, che non a caso è la nozione ispiratrice di questo pontificato. E che cosa vuol dire carità oggi? No? E che cosa significa filosoficamente pensare un pensiero della carità? Consentitemi allora due riferimenti molto, molto rapidi. A mio parere è un lavoro facile, mi permetto di dire, scusate la mia arroganza e la mia semplificazione, ad esempio ascoltavo con grande rispetto Barbero, c'è una storia di testimonianza, anche una forza di liberazione, di radicalità e di verità che io non posso che ammirare, ma d'altra parte a mio parere non si dà questione religiosa, non si dà questione cristiana, non si dà questione quindi anche della validità attuale del cristianesimo e della religione se rinunciando alla categoria del potere. Cioè, in fin dei conti, la categoria di potere è interna, è irrinunciabile a qualsiasi discorso religioso. Non esiste religione senza potere. Il problema fondamentale è comprendere come il cristianesimo ha storicamente avviato un meccanismo di decostruzione interna del potere teologico, estremamente ambiguo, in cui al tempo stesso il potere veniva riaffermato e poneva le condizioni per la sua decostruzione. Può sembrare non solo nella separazione degli ordini, pensate anche alla stessa nozione di Trinità. Vorrei citare un grande autore per me a proposito di teologia politica, io lo stimo tantissimo, non è un caso che l'ultimo Habermas torni a occuparsi anche di lui, che è Johann Baptist Metz. Metz, che è vero, no? Opera un lavoro non esplicitamente, io lo definisco un cripto sociniano, no? E quindi da questo punto di vista di decostruzione della nozione di Trinità, di rifiuto della dottrina tradizionale dell'incarnazione, di centralizzazione della nozione di carità, parli però a partire dalla Trinità stessa, che va decostruita, di assolutizzazione della vittima, ad esempio, o il principio della democrazia come principio della messa sul trono dell'autorità politica della vittima. Che cosa significa da un punto di vista, ripeto, qui nella Fondazione Basso, da un punto di vista dell'eredità teologica e cristiana, pensare un pensiero teologico che divinizza la vittima, cioè divinizza Cristo, e che quindi comincia a pensare il principio del monoteismo a partire da questo elemento, in fondo, irriducibile di decostruzione, che non a caso ha generato l'Occidente laico e secolarizzato. Già nei fogli queste cose erano indicate, in fin dei conti la secolarizzazione come un movimento interno, no? E qui la grande tradizione protestante, anche italiana, è sempre stata consapevole da questo punto di vista. Qui, ecco, basterebbe citare il discussissimo Gogarten e occuparsi invece una lettura blumenbergiana della secolarizzazione come mero atto, no, di autoposizione, di rottura e di distacco nei confronti dell'eredità teologica. Però, ripeto, le questioni in ballo a mio parere sono queste, cioè noi non riusciamo a pensare rigorosamente la scaturigine della politica occidentale, della democrazia occidentale, senza lo studio della tradizione ebraica, cristiana e in parte anche islamica, su questo non c'è ombra di dubbio. In parte perché nella tradizione occidentale è sicuramente più marginale, no? In fin dei conti è una tradizione che si è arroccata su un'identità ebraico-cristiana, qui bisogna essere onesti come storici, no? In cui l'Islam è spesso visto, no, come il grande nemico. Leggevo ad esempio recentemente le pagine di Erasmo, interessantissime, no? Erasmo, il pacifico Erasmo, che ha delle pagine violentissime nei confronti di ebrei e nei confronti dei musulmani, malgrado in altre pagine preferisca i musulmani agli ebrei, quindi qui vedete che c'è l'antiebraismo di origine. Consentitemi due notazioni. La prima, ancora in riferimento a Barbero, perché in quanto storico, insomma, io mi occupo di questi elementi, ho scritto recentemente un saggio, scusatemi se mi cito, che ho intitolato L'eresia originaria, e ho proposto un'interpretazione, penso con argomentazioni un pochino nuove, su Gesù eretico. Cioè, in fin dei conti, noi non riusciamo a capire la scaturigine del cristianesimo se non riusciamo a mettere a fuoco la crisi radicale all'interno dell'ebraismo che la vicenda di Gesù e delle comunità gesuane hanno vissuto, tutti ebrei, tutti con categorie ebraiche, tutti con mentalità ebraiche, ma all'interno di un'opzione apocalittica radicale che ha provocato una violentissima lacerazione interna, un'espulsione e di rimando, una denuncia della cecità di Israele, che però è, come dire, una lite di famiglia infraebraica. Allora, se noi ci limitiamo a pensare la stessa cristologia, no, della tradizione come una specie di infortunio storico, e non capiamo come paradossalmente sia stata un'esigenza dialettica, polemica, da questo punto di vista, interno all'ebraismo, che si scinde su una pretesa di assolutezza radicale, non riusciamo a restituire in tutta la complessità i rapporti tra ebraismo e cristianesimo. Cioè, non basta dire torniamo ad essere fratelli con gli ebrei, ma dobbiamo anche riflettere sulla complessa eredità teologica, che è un'eredità conflittuale, che è una affermazione di pretese rivali e di ebraismi vincenti perdenti. Non so se sono chiaro. Quindi, seconda questione, parlo con formule. A mio parere non è possibile questo lavoro sull'eredità teologica senza mettere a fuoco, ancora una volta qui ho in mente qualche espressione di Derrida stranamente, la necessità di porsi dal punto di vista dell'eresia. In questo senso, come dire, anche il Gesù eretico, cioè la posizione eretica è una posizione irrinunciabile, perché è una posizione irriducibilmente critica di decostruzione del dogmatismo. Ma d'altra parte, che cosa salva dalla frantumazione, dalla volatilizzazione e dall'assoluto relativismo? Questa è la questione, cioè qui io ovviamente non ho risposte facili. Direi alcuni, chiamiamoli teologumeni, che a mio parere possiamo ancora oggi considerare come salvaguardia di un pensiero critico, di un pensiero democratico, di un pensiero decostruttivo. E allora vi lascio una formula, è una formula che in qualche modo io astraggo da un testo cristiano, non ho capito delle epistole ai Romani, che a sua volta lo propone citando un testo ebraico. È vero che l'Epistola ai Romani è un testo ebraico a tutti gli effetti, ma semplifichiamo. E cioè, Genesi, ora non mi ricordo il capitolo, perdonatemi, è una formula: il maggiore servirà al minore. A mio parere questa è la formula della democrazia. Pensate alla questione dei migranti. Cioè, la democrazia è quel pensiero politico che ha ereditato la decostruzione del religioso e la fuoriuscita dal teologico politico in senso appunto negativo, e che colloca e riesce ad essere all'altezza di se stessa soltanto se riesce a considerare come irrinunciabile il principio, che noi potremmo poi dopo anche rideclinare come assolutizzazione della vittima, del maggiore come colui che deve servire il minore. Da questo punto di vista il luogo della democrazia è il luogo della minorità. Il luogo della democrazia è il luogo della minorità, e i grandi monoteismi, qui voglio aprire la questione più delicata, sono scuole storiche di democrazia. Ora, al di là dell'orrore umano che c'è stato in tutte le religioni, in tutte le confessioni, in tutte le fasi che continua ad esserci, in ognuno di noi, sono perfettamente d'accordo con la collega Corrao che ha parlato prima di me, perfettamente d'accordo, ma al di là di quello noi potremmo dire perché i monoteismi comunque rimangono ancora delle riserve religiose di senso, appunto, e perché in qualche modo a diversi livelli, ho citato un principio ebraico, un principio cristiano, penso non ci sia difficoltà a trovare qualcosa di analogo in ambito islamico e coranico, sono ignorante in materia e quindi non invado un campo che non è mio, ma a mio parere questo è un principio democratico, ripeto, in fondo di noi potremmo dire metabolizzazione politica e laica di principi di scaturigine religiosa. Allora, altro problema: monoteismo e violenza. Perché comunque sono i monoteismi che sono in grado di formulare, malgrado le critiche che conosciamo e che insomma non sono solo di Sloterdijk ma sono di vari, il monoteismo come violenza, no? Perché invece il monoteismo è in grado di pensare quello che è un pensiero eterologico? In fine conti, a mio parere, i monoteismi insegnano un pensiero dell'eterologia, cioè del fatto che l'altro è il cuore del divino, che è il cuore del pensiero politico e che è il cuore della dimensione etica, cioè questa alterità radicale, perché in fondo il monoteismo è un pensiero assolutamente eteronomo, donde la sua ambiguità, no? È un pensiero anche di asservimento, potremmo dire, di dogmatizzazione, almeno in certi casi, nel caso cristiano certamente, nel caso islamico no, nel caso ebraico neanche. Ma è un pensiero della dogmatizzazione, ma proprio perché è anche un pensiero dell'eteronomia, ma proprio perché è un pensiero dell'eteronomia, è un pensiero che pone la logica dell'altro, il limite del soggetto e la critica della pretesa di potere del soggetto al centro della riflessione. Quindi questa logica di eteronomia mi sembra essere una logica interna ai monoteismi che va colta e quindi in questo senso interpretata, ed è tutto evidente che da questo punto di vista noi non possiamo non continuare ad essere secolarizzanti, cioè la secolarizzazione, qui c'è appunto un maestro come Marramao, è il destino dell'Occidente, non è reversibile il processo di secolarizzazione, e i rigurgiti identitari, i rigurgiti religiosi sono in realtà paradossalmente anche dei rigurgiti in fondo neopagani, come vediamo dai rosari branditi, è del tutto evidente. Dove, in che senso vi è una proiezione pagana? Proprio perché non vi è un lavoro di decostruzione e di eterologia sul simbolo religioso esposto. Quindi vedete che in qualche modo tutti i monoteismi sono in grado di indicare, di denunciare, pensate anche alla logica ebraica come logica sostanzialmente dell'esodo e della fuoriuscita, no? Non è un caso che oggi il grande problema dell'identità politica occidentale si stia misurando con questo problema. Aggiungo due ultime considerazioni. La prima, cito Charles Taylor, che lo sapete, questo autore di questo monumentale lavoro Secular Age, no? Sulla secolarizzazione, è un cattolico canadese, che è molto interessante, lavora a mio parere un po' troppo esclusivamente da cattolico sul mondo protestante, su certe zone di confine, a mio parere è molto parziale insomma come approccio. Però voglio citare un principio di Taylor che mi sembra molto importante, cioè in fin dei conti le religioni, altrimenti noi continuiamo, io faccio lo storico, non come dico ai miei studenti alla prima lezione, il presupposto metodologico della storia del cristianesimo è ateo. Se noi non siamo atei, non riusciamo a muoverci, non riusciamo ad agire su queste categorie. Poi dopo, questo non significa che ciascuno faccia la sua scelta e operi la sua eventuale scelta di fede. Ma Taylor che cosa dice? Le grandi tradizioni religiose, in particolare la grande tradizione religiosa cristiana, è stata impulso alla libertà e ai valori della persona, della democrazia, e io su questo vorrei aggiungere poi qualche altra cosa, ma è stata anche elemento di freno. A mio parere questo doppio registro è storicamente, e vorrei dire anche eticamente, indispensabile. Cioè cogliere, torniamo alla questione dell'ambiguità del monoteismo, la religione al tempo stesso come struttura di promozione della persona e struttura di repressione, in qualche modo, semplifico, della persona. Allora, ripeto, identificare attraverso, insomma, qual è la mia proposta, tiro acqua al mio mulino, se noi non studiamo la storia del cristianesimo non capiamo l'Occidente, non capiamo la politica e la democrazia contemporanea. Cioè, è del tutto evidente che la secolarizzazione della democrazia e la laicità sono l'esito della fuoriuscita da una struttura cristiana, la formula famosa di Gaucher, no? Il cristianesimo come religione della fuoriuscita dalla religione. O ancora la grande formula di Berger, no? Il cristianesimo è una religione che si scava la fossa, che è fantastica e oltretutto anche molto cristologica nascostamente, quindi voi capite la raffinatezza cristiana dove può arrivare talvolta. Però ecco, vorrei insistere su questo elemento e sto davvero chiudendo. Mi dispiace, grazie, scusi per la superficialità. Allora, seconda questione, Habermas, la Chiesa cattolica o le grandi comunità religiose, sostanzialmente comunità critiche di interpretazione, all'interno di quello che è comunque la prospettiva liberale, no? Della comunità dialogica. Molto problematico, oggi vediamo quanto sia problematico, da un certo punto di vista irrinunciabile, perché l'unica possibilità di riconoscere il ruolo della religione è il ruolo relativo della comunità critica di interpretazione, non un ruolo assoluto e dogmatico, di pretesa di verità e di imposizione di verità. Ma d'altra parte il problema che emerge, io lo semplifico in un'espressione, torniamo alla questione della teologia politica in Agostino, è il problema della saturazione dello spazio dell'immaginario nella civiltà contemporanea e della produzione e manipolazione del desiderio. In fin dei conti, quello che fa la teologia politica romana nel De Civitate Dei fa il capitalismo oggi, no? Cioè la produzione e l'orientamento del desiderio e, come dire, la saturazione dello spazio dell'immaginario. Allora, da questo punto di vista mi pongo problematicamente una questione. Il potere della Chiesa cattolica è irrinunciabile, riprenderei alcune espressioni di Borghesi, cioè la riduzione dello stesso cristianesimo ad opzioni interiori, ma lo stesso vale per l'Islam e lo stesso vale per l'ebraismo, a opzioni in qualche modo a un modello liberale, è all'interno della società contemporanea estremamente problematico dal punto di vista dell'efficacia. La pongo soltanto come questione, in una formula: il Papa che bacia i piedi alle fazioni sudanesi o il Papa che va a Dubai e dice la tua via è uguale alla mia, che è Cristo, che dice io sono l'unica via, voi capite il rischio che un Papa, Vangelo di Giovanni ovviamente, no? Si assume, ha ben altro peso che se lo dico io, cioè se vi è un potere che si autodecostruisce internamente, ha il potere anche di comunicazione, di occupazione dell'immaginario religioso, è quello papale, mentre invece, diciamo, un potere di comunità interpretazione, per quanto articolato, che non abbia il potere di una tradizione religiosa alle spalle, diventa problematico. Allora, ripeto, qui non c'è risposta, c'è problema, no? Cioè, il fatto che soltanto la Chiesa cattolica, forse neanche più le chiese protestanti in Italia, no? Non solo perché sono più deboli, o le chiese protestanti in Germania, dove dovrebbero essere fortissime, non riescono più ad avere quel peso e anche quella voce universale di intervento che può avere il Papa. Quindi chiudo su questo e mi vado all'indietro alla storia delle origini cristiane. Cosa sarebbe stato, qui ho in mente delle pagine molto belle di Sachaux, in quel suo libro che hanno tradotto in italiano, La nascita del cristianesimo, no? È stato pubblicato da Einaudi. Cosa sarebbe stato il cristianesimo senza Costantino? Il cristianesimo senza Costantino non avrebbe cristianizzato l'Occidente, questo è del tutto evidente. Non avrebbe occupato il potere politico, che vuol dire anche il potere filosofico, che vuol dire anche il potere ideologico, il potere rappresentativo. E cosa sarebbe stato l'Occidente? Cioè, ripeto, il politeismo è facile recuperarlo dopo che 2000 anni di storia hanno costituito un soggetto libero, autonomo, con una dignità e una sacralità del suo corpo e del suo desiderio, che è il frutto di 2000 anni del cristianesimo e dell'illuminismo stesso come fenomeno post-cristiano. Ma cosa sarebbe stato il cristianesimo e il soggetto occidentale senza il trasferimento, e chiudo da dove avevo cominciato, del Vangelo in potere? Ripeto, è evidente che anche da questo punto di vista il rapporto tra Vangelo e potere è una questione delicatissima. Ma in quanto, dato che io faccio lo storico, non faccio l'anima bella, so bene che senza potere il Vangelo non tiene. E quindi senza Chiesa universale e cattolica, che connette, che costituisce testi fra sacri e che costituisce un'ortodossia dogmatica, neanche l'eresia sarebbe stata possibile. Allora, sono considerazioni molto superficiali. Mi fermo qui, avrei voluto parlarvi di lettera e spirito, di una dialettica interna all'ebraismo che spiega l'emergenza del cristianesimo come religione dello spirito, dell'illuminismo come diciamo religione dell'umanità che ci libera dal dogmatismo spirituale, come a dire che noi ancora oggi nella nostra ingrata fuoriuscita dal cristianesimo siamo comunque ancora figli del cristianesimo, come il cristianesimo fuoriuscito dall'ebraismo è ancora figlio dell'ebraismo. Mi fermo qua e vi ringrazio. Grazie Lettieri di questo stimolantissimo intervento. Io ho difficoltà a lavorare con i controfattuali, però insomma anche l'ultima provocazione mi sembra importante. Adesso abbiamo gli ultimi due relatori previsti, Enzo Pace, che credo abbia bisogno del proiettore, che è stato professore di sociologia delle regioni all'Università di Padova, titolare anche lui del modulo Islam and Human Rights, stato presidente dell'International Society for the Sociology of Religion e coordinatore della sezione di sociologia della religione dell'Associazione Italiana di Sociologia. Insieme ad alcune questioni che riguardano i fondamenti della sua disciplina, si è occupato di sociologia dell'Islam, dei movimenti pentecostali, della fede come spettacolo, della religione come comunicazione, della religione al tempo di internet, della religiosità popolare nell'epoca post-secolare e dei modelli di integrazione dell'Islam in Europa. Ho fatto bene il lavoretto. Ho studiato. Allora, quello che ho pensato di fare per rispondere alle questioni del, diciamo, della convocatoria di questo pomeriggio, è quello appunto di riflettere sul tema del potere e riflettere soprattutto sulla strutturale connessione della parola potere con la parola religione. Questa sarà la prima parte, dopodiché cercherò di ragionare con voi su gli sviluppi che da questa prima assunzione derivano. In sostanza, se dicessimo cosa vuol dire parlare di potere delle e nelle religioni, la prima cosa che mi viene in mente è quella di spiegare questo primo box, il potere di comunicazione. Noi parliamo spesso di religioni del libro, per esempio. Io prima ancora di parlare di religione del libro, tenderei sempre a parlare di religione della parola. In principio c'è la parola, le 10 parole nella tradizione ebraica, la parola di Gesù, la parola di Muhammad e così via. Parola. Quindi uno strumento fragile, inerme, di per sé, perché si affida alla voce, ma che ha in sé una forza, un potere appunto, di far immaginare possibile una serie di nuovi significati da attribuire a gesti, parole, in senso religioso, riti, costumi, regole di condotta, che sono date per scontate in un periodo storico, perché si sono accumulate dei riflessi condizionati. Quando sento una parola, attribuisco a quella parola quel significato, no? Parlare di Shabbat, no? Prima Gaetano, parlare di Shabbat, tutti sapevano, però dire ragazzi guardate che lo Shabbat potrebbe avere un altro significato. Ecco. Così Mohammed, quando parla di questa entità, sa di cosa sta parlando, perché ne ha sentito parlare da ebrei e cristiani, ritorna su questa nozione e fa vedere che quella parola araba poteva avere altri significati, come se si aprissero degli scrigni e io tirassi fuori delle altre possibili interpretazioni. Quindi strutturalmente chi esercita questo potere della parola, e cioè chi riesce a far immaginare un altro mondo possibile di significati, acquista uno statuto che di per sé ha a che fare col potere. Tant'è che giustamente il Rav Segni ci diceva il regno, il sacerdozio, la profezia. Probabilmente in principio c'è la profezia, cioè c'è lo statuto di un personaggio, direbbe Max Weber, dotato di un potere di farsi riconoscere come portatore di un potere straordinario, che è capace di aggregare attorno alla sua parola, quindi alla forza comunicativa della sua parola, aggregare una comunità che in prima istanza, per usare un linguaggio delle scienze cognitive, in prima istanza, prima di essere convinto, sente, cioè c'è un trasporto emotivo, sente che questo potere gli fa immaginare qualcosa di straordinario, di extraordinario, perciò può essere anche un potenziale che scardina gli ordini mentali, le mappe cognitive, e che scardina di fatto poi le regole del gioco sociale, no? Non lo so cosa volesse, come potesse essere recepito da questi poveri pescatori, artigiani che andavano dietro Gesù, quando dice ma cosa stai a seppellire i tuoi morti? Follow me, seguimi. Cioè, come dire, devi far collassare dentro la tua testa, e quindi anche emotivamente, un ordine delle cose, perché io ti apro un nuovo mondo, ecco. Prima del 68, prima di questa famosa espressione, immaginazione al potere, le religioni sono una grandissima forza di immaginazione al potere. Questa è la prima cosa che a me mi interessa dire, perché in questo aspetto c'è quella dialettica a cui accennava Gaetano, ma anche Bolognesi, e cioè che strutturalmente nelle religioni non c'è il vero e il falso. Non c'è il vero e il falso. Questa è una costruzione filosofica successiva. C'è una tensione continua tra il vivo della parola, che progressivamente, man mano che si, per ragioni fisiologiche, il portatore della parola fisicamente sparisce, l'effetto alone carismatico sparisce, questa parola non è più viva al 100%, non appassiona, non affascina più per il diretto rapporto personale, diventa parola data. E man mano che questa parola data diventa oggetto di comunicazione all'interno di una comunità, e da comunicazione si passa al conflitto, e dal conflitto si passa alla controversia, dalla controversia si passa allo scisma, alla spaccatura, noi comprendiamo come la tensione vera non è tra vero e falso, ma è parola viva e lettera morta. Cioè più cerco di recintare, di chiudere questa parola nella sua vivacità, la depotenzio, la faccio diventare appunto apparato di dogmi, catechismi, oppure apparato ideologico di uno Stato, e dopo ci arriviamo. In questo senso io parlo, per essere il più largo possibile, tendo a non usare questa parola religione in senso troppo etnocentrico, preferisco parlare di sistemi di credenza organizzati dal punto di vista sociale, ma prima di arrivare a questo c'è tutto un processo storico che gli storici mi insegnano. Io non permetterei mai di definire queste cose se non avessi letto i libri di Lettieri o di altri storici. Nel senso che c'è qualcosa che colpisce nelle religioni, che è questo schema per cui ogni volta che si arriva a un punto tale per cui quella parola viva appare mummificata, appare burocratizzata, cioè appare infeudata in una struttura di potere, puro potere, inevitabilmente ricompaiono movimenti di tipo profetico. Non è vero che non siamo dentro un'epoca profetica, ci sono, adesso vi farò vedere, paradossalmente non ci piacciono questi profeti, però ci sono in giro per il mondo. Questa è questa dialettica, allora, in qualche misura fa sì che io vengo da una scuola di sociologia della religione che era stata impostata da Acquaviva a Padova, che quindi era uno dei teorici italiani della secolarizzazione. Non sono mai stato convinto al 100%, perché già nel 79, per la prima volta, quando andai in Polonia, mi sono trovato di fronte qualcosa di socialmente vivace dal punto di vista religioso e politico. E andando qualche anno più avanti in Iran, anche lì mi trovavo di fronte a qualcosa di socialmente, politicamente vivace dal punto di vista sia religioso che politico. Dunque quel paradigma della secolarizzazione così lineare, così illuministico, non mi andava bene. Ma perché in qualche misura, al di là della secolarizzazione, se ci si crede o non si creda, questo è il tema ricorrente ancora oggi. Se no non riusciamo a spiegarci, non possiamo, come dire, partire dicendo siamo usciti dalla religione, adesso le religioni ritornano. Questo è uno schema che è qui dialettico, lineare, invece c'è qualcosa di più profondo, nel senso che ogni religione accumula attraverso la storia simboli, riti, gesti, schemi mentali, emozioni che risorgono a seconda dei momenti in cui compare qualcuno e dice: ragazzi, questa chiesa si è ormai mummificata, cambiamola. Il protestantesimo, tra virgolette, perché non esiste il protestantesimo, esistono le chiese delle riforme, è il terreno, come ci ha insegnato Ernst Troeltsch, che ha favorito la invenzione continua di nuovi modelli di essere comunità di credenti in nome di una parola viva che appariva tradita. No? Per cui non abbiamo un modello di chiesa, ma abbiamo una pluralità di chiese. Per cui sono d'accordo con te, Gaetano, forse all'inizio addirittura si potrebbe dire non solo Gesù eretico, ma in principio c'è la setta, cioè della separazione, del separarsi, no? Bon. Ma non mi allargo di più. Nel secondo box è quello che avete detto, no, non mi si fermo. Allora, se c'è questa struttura profonda legata al potere della parte delle religioni, è evidente, diremmo oggi, se le religioni riescono a comunicare con forza, no, immaginare un mondo nuovo, a far immaginare un cambiamento, il miracolo del cambiamento comincia, lo vediamo ancora oggi, scusate questa battuta molto, così, molto banale, dalla politica. La politica è il miracolo del cambiamento, promette il cambiamento, fa immaginare possibile il cambiamento, no? Come ci ha insegnato qui, tanto di cappello, Hannah Arendt. No. Allora, in questo senso c'è quindi non solo un'attrazione fatale, ma c'è un interesse oggettivo da parte del potere politico nel utilizzare questo capitale simbolico che è la comunicazione religiosa per fini strategici politici. Ora, quando analizziamo anche questo tema che voi avete toccato oggi pomeriggio, rapporto violenza-religione, prima ancora della violenza delle guerre, della violenza fisica, dobbiamo ovviamente sempre pensare alla Bourdieu, alla violenza simbolica. Perché evidentemente quando io definisco nel passaggio dalla parola viva alla parola data e alla parola scritta, io già faccio una violenza sulla parola viva. La costringo a stare alle regole sintattiche e grammaticali di un testo, di una lingua. Addirittura arrivo a concepire, questo è uno dei paradossi storici poi dell'Islam, a concepire che addirittura Dio abbia parlato in arabo, che sia la lingua perfetta di Dio, ma no. Dopodiché in Indonesia, in Malesia, sì, quelli più educati hanno imparato arabo, ma bisogna tradurre il Corano nel malai, nell'indonesiano, nell'urdu, eccetera. Questo mi fa dire sostanzialmente che pensiamo a questa figura. Tu facevi prima di che cosa sarebbe stato il cristianesimo, ma cosa sarebbe stato il buddismo senza questa figura cruciale che è Ashoka? Allora, perché bisogna rivisitare questa figura? Perché qualcuno di voi ha citato i movimenti neo-hindutva, cioè i movimenti neo-induisti che sono al potere, eh? L'Uttar Pradesh oggi è retto da un presidente, da un monaco che appartiene a un monastero che fa parte di una corrente di, diciamo, neo-induista nazionalista religiosa, per essere molto sommari. Il primo atto che ha fatto quando è andato nell'ottobre del 18, cambiare il nome della città di Allahabad, restituendogli un vecchio nome della tradizione hindu, sanscrita, eccetera, eccetera. No? Cioè siamo in un'epoca in cui noi abbiamo politiche nazionaliste, religiose, dappertutto, ma anche il buddismo non scappa da questa logica. Perché? Perché se noi studiamo il caso dello Sri Lanka e il caso del Myanmar, noi troviamo movimenti creati da monaci, non da laici, da monaci. Il movimento creato nel 2012, il Bodhu Badasena, che vuol dire la forza del potere buddista, si chiama così, cioè non è equivoco, non si può equivocare, la forza del potere buddista, povero Buddha, no? Capite? Allora, lì, oppure il 969 di Virtù, che è un altro monaco, in Myanmar, sono tutti movimenti nazionalisti religiosi che fanno molto gola a chi ha il potere, perché serve a dimostrare bene, questo è il vero buddismo che cementa la coesione sociale, che dà identità e così via. Finisco con gli altri due passaggi. Quindi c'è, nell'epoca in cui viviamo, il nesso è tra religione, terra e lingua, cioè la religione diventa un codice comunicativo usato dal potere politico o da certi poteri politici, da certi ceti politici, per collegare tre cose che nella vicenda storica contemporanea non sono facili da collegare, perché il controllo sui confini nazionali in un'epoca di circolazione dei capitali finanziari, delle persone e dei consumi è tale per cui il potere politico ha bisogno di riaffermare un controllo sui confini, e quanto più questi confini possono essere declinati in termini di confini sacri, cioè che sono stati presidiati storicamente da una religione, tanto più la retorica politica, forse, non lo so, chiedo a Bolognesi, forse succedani di teologia della politica, teologie politiche, come dire, camuffate, non lo so, tu sei uno specialista, poi rispondi meglio, la lingua, è interessantissimo studiare cosa avviene oggi nello Sri Lanka, che è storicamente una società sia a maggioranza singalese, buddista, ma ci sono cristiani storicamente, ci sono musulmani di tutti i tipi, e vedere che c'è tutto uno sforzo di glottopolitica, cioè di imporre un modello linguistico certificato dalla maggioranza del ceto dei monaci buddisti, che dice questa è la lingua vera, non la lingua come dire, che parliamo di più perché siamo in tanti che la parliamo, la lingua vera perché ha radici nei testi sacri Pali, nel canone Pali. Non è vero, perché il testo Mahavamsa, che viene usato per citare questa lingua, questa lingua sacra, non è poi un testo canonico. E questo è quello che è avvenuto. Cioè, non dobbiamo andare chissà dove, dobbiamo riguardare questa storia per capire come durante quella guerra, drammatica guerra, sulla coda della guerra abbiamo visto risorgere i fantasmi delle differenze religiose. Finisco. C'è, è già detto, quindi non ho bisogno di esprimersi, cioè se le religioni hanno questa capacità di far immaginare un altro mondo possibile, noi siamo in una fase storica in cui siamo di nuovo a dover confrontarci con una serie di movimenti religiosi, messianici, millenaristi, apocalittici, fondamentalisti, chiamiamoli come vogliamo, che immaginano possibile rovesciare il modello di democrazia che si è imposto negli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo l'11 settembre, quando, non posso fermarmi perché più di tanto su questo punto, dove c'è una quantità, qualcuno dice anche 50 milioni di persone che ci stanno dietro, i siti, i movimenti, quelli che vengono chiamati i movimenti apocalittici o escatologici evangelici contemporanei, quelli cioè che vi possono inviare sul vostro telefonino un'app per spiegarvi quali sono i segni dell'imminente arrivo, del secondo arrivo di Gesù Cristo, e quindi calcolare, potete calcolare i tempi, no? Ma la cosa sorprendente è che dentro questi grandi movimenti che si sono rafforzati dopo l'11 settembre, quindi quella datazione che suggerisce Bolognesi va molto bene, c'è questa idea, questo evento ha accelerato l'attesa della seconda venuta. Non è una roba nuova negli Stati Uniti d'America, cioè la democrazia americana ha sempre avuto una spina nel fianco, che sono i movimenti che non hanno mai creduto fino in fondo nella democrazia liberale, cioè hanno sempre immaginato che, insomma, se uno legge attentamente la Bibbia lettera per lettera, in modo letteralistico, c'è scritto che Gesù sta tornando, e quindi perché impegnarsi per la giustizia sociale, per il cambiamento? No, prepararsi, arrivare puri alla meta. No? Questi movimenti si stanno incontrando ormai un po' da poi anni con un altro movimento, che è quello che noi conosciamo oggi, che è la spina nel fianco di Netanyahu, in Israele. Netanyahu non riesce a fare un governo perché deve allearsi con un gruppetto di partiti che rappresentano movimenti, non tutti, alcuni movimenti messianici che io chiamo radicali, i quali cioè dicono, pensano, qui forse Bolognesi mi aiuti, questo sì è una teologia politica, pensano che ricomposti i confini biblici della terra di Israele arriva il Messia, il loro Messia, che evidentemente blocca qualsiasi ipotesi di pace, perché ogni zolla della terra promessa non può essere ceduta ai palestinesi, cioè non c'è soluzione. No. È una minoranza, però una minoranza molto intrigante, perché è una minoranza che va nella direzione dei movimenti evangelici apocalittici e scatologici, che pensano che il segno dei tempi, che Cristo sta tornando, è la vittoria di Israele nella guerra di sei giorni, che è la stessa cosa che pensano i movimenti ultraortodossi ebraici. È arrivato il tempo del Messia. Soltanto che i cristiani evangelici dicono, eh sì, dopodiché arriva sto Messia, dove? A Gerusalemme, e vi converte tutti, cari ebrei. Diventiamo tutti cristiani. Quindi questo senso mi diverte, nel senso che non è che mi diverta, ma intellettualmente mi diverte vedere come ci siano anche dentro le grandi democrazie delle forze di immaginario religioso che hanno degli effetti imprevedibili sugli equilibri politici, no? Sulla stabilità dei governi e così via. Esattamente. Non è una battuta. L'obispo Edir Macedo, fondatore della Iglesia Universale del Regno Deus, che è una delle più grandi chiese inventate neopentecostali in Brasile, ha costruito, è arrivato 4 anni fa, il Tempio di Salomone a San Paolo. Si è fatto arrivare con dei cargo, dei pietre da Gerusalemme, ha costruito un tempio che lui dice è quello di Salomone, quindi è inutile che è stato a costruirlo. La nuova Gerusalemme sta a San Paolo e ogni tanto si esibisce, non lo so, a qualche rabbino brasiliano non ha detto nulla, io mi sarei detto scusa. Si esibisce con tutti i paramenti da rabbino, cioè fa una sceneggiata da rabbino nel Tempio di Salomone. Cioè, tanto per dire come siamo dentro un immaginario un po' curioso, se volete, ma che la dice lunga i tempi in cui viviamo. E chiudo. Grazie. Se vuoi accendere, anche ti dico. No, no, io so solo, invece di avere appunti, ho gli appunti sul computer, ma non ho bisogno di accendere niente. Bisogna cercare di accendere il cervello, sicuramente, perché dopo un pomeriggio così intervenire per ultimi non è assolutamente banale. Allora, anche nel caso della professoressa, ma tanto io sono Deborah Spini, non c'è niente, cioè amica di molti qui, peccato che non c'è più Franco Barbero, perché intendevo fare subito un coming out a lui rivolto, di dire che io faccio parte di questi valdesi zucconi, niceni e fieri di esserlo, e accidenti, e dove cosa che cercherò anche, come dire, dopo di articolare, però no, sono una zuccona nicena, assolutamente sì, faccio parte del Centro Studi Confronti e niente. Anch'io avevo cercato di reagire alla convocatoria, nel senso che anch'io avevo cercato di fare un minimo di compiti a casa e appunto evidentemente dovendo reagire a tutti i temi della lettera convocatoria, questo sostanzialmente dava, come posso dire, luogo a una summer school di una settimana, però io suppongo che molte e molti di voi abbiano altro da fare. Io quindi avevo pensato, rispetto alla convocatoria, di cercare di organizzare qualche riflessione sulla polarità sacro e santo. E giusto per arrivare subito al punto, vista appunto la tarda ora, sostanzialmente la mia tesi la espongo in maniera molto brutale, era questa, che se vogliamo effettivamente esperire il potenziale democratico delle fedi religiose e soprattutto se vogliamo in un certo senso evitare la Scilla e la Cariddi della mobilitazione violenta delle fedi religiose, ci conviene lasciar stare il sacro e piuttosto occuparci di santo. E questo perché? Perché sostanzialmente qui in un certo senso sto, come posso dire, facendo un frullato di autori che andrebbero meglio, no? Di cui andrebbe meglio reso conto, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente, come dire, molto banalmente strapazzando un po' Levinas, giusto per capirsi. Mi sembra che sostanzialmente nel santo vi sia una dimensione di verticalità, di alterità, mentre invece nel sacro rimane nel santo una dimensione anche, diciamo questa parola, di trascendenza. Il sacro continua ad essere connotato da una fortissima invece dimensione di immanenza, perché appunto il sacro è condivisibile. Qui naturalmente il momento in cui si parla di sacro condiviso, mi vergogno a farla di fronte a uno, come dire, degli astri della sociologia italiana, ma è evidente che si evoca il fantasma di Durkheim. E come voi sapete, anche nel dibattito della filosofia politica di questi ultimi, direi, come si dice, paio di decenni, sicuramente, come dire, la nostalgia durkheimiana fa parte in un certo senso dell'air du temps. Io vorrei appunto anche dire a questo proposito, fare un altro coming out come quello del mio, come posso dire, irriducibile nichunismo. Devo dire, questa nostalgia post-durkheimiana io la trovo onestamente urticante. La trovo urticante anche perché molto spesso la si ritrova sotto la penna, come dire, di autori, di pensatori, di pensatrici, i quali non hanno alcuna interesse sostanziale per la dimensione della fede, ma che sono molto affascinati dalla dimensione religiosa. E perché vi è una nostalgia post-durkheimiana? C'è una nostalgia post-durkheimiana perché ci troviamo molto nei guai a trovare delle formule politiche su questa terra che ci consentano di non tagliarci la gola l'una con l'altra e di fare anzi quel lavoro che giustamente Francesca Corrao all'inizio di questo nostro lungo pomeriggio riteneva così necessario, appunto in un certo senso di mobilitarci anche di fronte alle urgenze. Allora noi, come dire, in un certo senso queste nostalgie post-durkheimiane sembrano sancire che cosa? Una sorta di fallimento del progetto occidentale della secolarizzazione. A questo punto io ritengo che sarebbe importante, ecco, comunque sia, fare anche un poco di precisazioni sulla questione secolarizzazione e post-secolarizzazione. Giustamente uno degli interventi che mi hanno preceduto evocava il nome di Charles Taylor. Charles Taylor sicuramente è importante, perché? Perché appunto Charles Taylor ha dato, come dire, un altro taglio alla questione della secolarizzazione, cioè che la secolarizzazione non è solo l'evanescenza, no? L'assottigliarsi del sacro, della presenza della trascendenza, bensì è una trasformazione fondamentale delle condizioni della credenza, per cui la credenza non è più qualcosa che avviene per default, ma diventa invece una scelta riflessiva. E questo è anche una cosa fondamentale. Giustamente Francesca Correa all'inizio parlava di fondamentalismo, anche in questo caso mi dispiace di parlare appunto di fronte ad autorità tanto più come posso dire, rispettabile di me, ma sicuramente è una cosa fondamentale da capire che appunto fondamentalismo, radicalismo religioso, eccetera, eccetera, non sono fenomeni regressivi, bensì sono fenomeni che si scrivono pienamente in una dinamica di modernità. Ora, sempre più nella filosofia politica ci troviamo a lavorare su questo tema della regressione, anche perché apparentemente tante espressioni della politica contemporanea sembrano regressive, per esempio molto spesso si parla di una regressione per quanto riguarda i rapporti anche fra i generi, la libertà delle donne. Anche su questo bisognerebbe un po' discutere, cioè se effettivamente sicuramente c'è una recrudescenza di attacco contro i diritti e le conquiste delle donne, io però non credo che ci aiuti a risolvere il problema a vederli in termini regressivi. Così la rinnovata presenza delle religioni nello spazio pubblico non può essere vista semplicemente come un ritorno all'antico, ma nemmeno post-secolarizzazione serve, perché se si dice di post-secolarizzazione comunque si ha, come posso dire, una immagine spaziale, no? C'è una linea che bisogna passare. o perché si torna indietro o perché si va avanti, ma invece non c'è la come si può dire, la essere nello stesso centro, se vogliamo, di secolarizzazione e credenza. Sicuramente questa, come posso dire, questa riflessione sul portato della secolarizzazione viene fatta da Taylor. Io avrei una gran curiosità, ma non ho mai avuto modo di domandare, ma perché appunto Taylor, come dire, giustamente mette in luce quanto ci sia di eredità cristiana nella possibilità stessa di pensare alla secolarizzazione. Perché mai in The Secular Age, mai in 990 pagine, almeno edizione, mai citato Gaucher? Perché invece voi sapete che è stato già Marcel Gaucher a mettere in luce appunto proprio questa capacità, come posso dire, autocannibalistica del cristianesimo. Ma questo perché? Perché sostanzialmente noi poi dopo vediamo che, come dire, da una parte Gaucher, da una parte Taylor, arrivano poi invece a, come posso dire, non semplicemente un risultato di analisi, ma anche a prescrizioni molto diverse. Perché allora, in un certo senso, se il cristianesimo aiuta, no? In un certo senso, se il cristianesimo è autocannibalistico, che cosa bisogna fare? Bisogna porre un freno alla capacità autocannibale, come posso dire, distruttiva, del cristianesimo, o bisogna viverla come opportunità, anche con coraggio, con paura, con timore e tremore, ma anche con gioia? Se voi guardate il bellissimo edificio di Secular Age, c'è un punto molto importante dove Taylor riflette in particolare sul tempo messianico. E appunto io sto sostanzialmente saltando tutti gli appunti che mi ero preparata, perché invece mi sembra più interessante reagire agli importanti stimoli che sono venuti oggi pomeriggio. E non c'è assolutamente dubbio che, come dire, della tensione fra regno, sacerdozio, profezia, e come sappiamo profezia e messianesimo sono, come dire, parte di un continuum, no? In un certo senso, come dire, logica progressione dell'una nell'altro. Allora voi potete vedere che in The Secular Age Taylor dice qualcosa di molto interessante, ovvero sia che la Chiesa Cattolica ha operato l'immanentizzazione del tempo messianico, perché in un certo senso la Chiesa, no, in se stessa ha reincapsulato il tempo messianico, e così facendo, secondo Taylor, solo la Chiesa Cattolica Romana può riscattare questa modernità persa, questa modernità di tempo omogeneo, questa modernità, o anzi postmodernità di tempo tutto liscio, appunto di come posso dire, zuccherosa e rosa pallido. No. Allora, io ritengo che invece sia molto più interessante la prospettiva di Gaucher, e questo c'entra secondo me anche un poco con tutte le discussioni che abbiamo avuto oggi pomeriggio su teologia politica, messianesimo, eccetera, eccetera. Ovvero sia, da parte, e questo c'entra anche con la distinzione sacro e santo, il santo è di per sé messianico e profetico, e per questo il santo non è mai condivisibile. Perché? Perché non si può mai acchiappare, nemmeno per metterlo in comune. Il santo rimane una dimensione totalmente altra. Per questo il santo non si piega a quei meccanismi di appropriazione che Enzo Pace ci ha così magistralmente descritto, no? Negli ultimi box della sua bellissima presentazione. E per questo effettivamente non è la mediazione ecclesiastica che possa salvare questa postmodernità di zucchero filato, bensì la cosciente e coraggiosa assunzione della completa libertà, incommensurabilità e anche impossibilità di catturare il santo. In un certo senso Claude Lefort, no, diceva: cos'è la democrazia? La democrazia è stare intorno a un vuoto. E mi sembra che sostanzialmente la prospettiva del santo sia molto più capace di sostenere questa visione della democrazia, laddove lo stare intorno a un vuoto non è un atto di vigliaccheria, è l'atto del più grande coraggio che si possa avere, laddove il sacro vuole riportare al centro della democrazia, che cosa? un pieno, un solido, un qualcosa, un luogo, un oggetto, un rito, una pratica, che sono bellissimi, confortevolissimi, assolutamente terapeutici, ma al tempo stesso il sacro condiviso, che diventa poi dopo regno sacerdozio, si potrà sempre riaprire a un'altra prospettiva messianica, che vorrà fare che cosa? Che vorrà semplicemente adesso sostituirsi. Per questo mi ha, come posso dire, ho trovato assolutamente illuminante, professor Pace, il suo ultimo commento, no, su questo messianismo di destra. E mentre l'ascoltavo, a me veniva in mente un dibattito vecchissimo, tanto vecchio c'ero nemmeno io, ovvero sia il dibattito fra Lutero e Münzer, che tutti noi abbiamo sempre, no, pensato a Lutero come il razionario, invece, no, al contrario, per carità di Dio, abbiamo tutti letto Bloch, eccetera, eccetera. Ma riguardando sostanzialmente la posizione di Lutero, noi troviamo una cosa, noi troviamo che Lutero sostanzialmente rimprovera il suo avversario di aver fatto una crasi, un'identificazione diretta fra la sua parola e la parola di Dio, e di avere così eliminato quello iato fra parola umana, appunto, parola viva e parola data, che solo, no, in un certo senso fa d'antidoto a che cosa? Fa d'antidoto al semplice susseguirsi, al semplice rincorrersi di una teologia politica dopo l'altra. E quindi, in sintesi, appunto, che cosa significa questo per la democrazia? Certo, noi possiamo dire laicità non è garanzia di democrazia. Verissimo. E del resto la laicità è solo una via alla gestione della differenza religiosa. Prima, appunto, il professor Pace si riferiva al contesto indiano, purtroppo le cose sono andate molto male, però se si vede l'essenza della Costituzione indiana dopo l'indipendenza, c'era una via, diciamo, al pluralismo religioso, che non era semplicemente la secolarità occidentale, che aveva una sua forte dignità, che aveva, come dire, un suo forte afflato. Perché anche la laicità non è la risposta alla democrazia, però non lo è nemmeno la convergenza. E qui mi permetto di distanziarmi dalle parole, per tanto così nobili e anche ispiranti, della professoressa Corrao. No, non è il venirci incontro che garantisce democrazia e libertà. E perché? Perché veniva in mente, no, sostanzialmente Hobbes del Leviatano, che dice: ascoltate. Allora, sostanzialmente c'è una cosa sulla quale bisogna essere tutti d'accordo, che, no, Gesù è il Messia. Una volta detto quello, smettiamo di litigarci, perché tanto sono cose che non servono a niente. Si fa una bella cosa, si dice al Leviatano che ci dica lui che cosa credere, fine, basta, fine dello show, fine della trasmissione, e smettiamo di tagliarci la gola. Allora, il problema è questo, che non è Erasmo da Rotterdam il faro a cui guardare per mantenere la democrazia e non farla cadere sotto l'attacco dei radicalismi religiosi. Perché? Perché Erasmo, che cosa diceva? Le differenze sono adiafora, cerchiamo di guardare a ciò che ci unisce. La scommessa della democrazia non è la convergenza, è il pluralismo. È il pluralismo, ovvero sia, appunto, non tanto una questione di sacro condiviso, un minimo comune denominatore sul quale ci si può mettere d'accordo, ma il coraggio invece di stare intorno al vuoto comune, che però può essere un estremo pieno individuale, che non è pertanto il terreno della religione, quanto piuttosto il terreno della fede. E lì, appunto, la questione della verità si può anche articolare con un'altra parola che è molto importante, che è autenticità. Allora, effettivamente, delle sfere pubbliche che siano in grado di reggere l'autenticità non sono necessariamente delle sfere pubbliche costruite intorno a un sacro condiviso, anzi, al contrario, sfere pubbliche che siano capaci veramente di reggere la differenza. E ora direi che mi debba tacitare, perché probabilmente ho preso anche troppo. Abbiamo ancora una mezz'ora, direi. E ha chiesto di riparlare la collega Corrao, poi chiunque vuole intervenire è benvenuto. Prego. Sì, scusate, perché io, come dire, non ho parlato di Islam. assolutamente. Però volevo, come mi sono sentita chiamata in causa quando si è parlato del discorso la religione che appare, si ripresenta e torna violenta. Purtroppo torna violenta perché torna violenta col 9-11, e con il 9-11 è quello che noi sappiamo dell'Islam, ma invece una cosa importantissima di cui noi non parliamo mai perché non abbiamo la conoscenza è l'emergere dei movimenti mistici. I movimenti mistici sono estremamente importanti nell'Islam, sono quelli per esempio che erano presenti in piazza Tahrir il 25 2011, e che hanno fatto sì che, come dire, il movimento restasse pacifista assieme a quei piccolissimissimi gruppi di intellettuali pacifisti che c'erano, no? Però poi i mistici, nel momento in cui si va alle elezioni, non si candidano e non vogliono entrare nel conflitto politico, per cui lasciano lo spazio ai fratelli musulmani. Quindi il discorso, per esempio, quindi dell'associare, ahimè, la religione con la violenza è pericoloso, perché non è vero, perché non è assolutamente vero, perché invece è quell'aspetto mistico santo. Giustissimo questo discorso, io, come dire, se lo trasporto sul linguaggio dell'Islam è il santo versus il sacro della routine, del rito, delle belle parole, ed è tra l'altro molto interessante perché l'opposizione alla religione di potere nell'Islam sin dall'inizio, cioè subito dopo la morte del profeta, si organizza o in terrorismo politico subito, cioè le dei Harigiti vanno subito dalla morte di Ali, il cugino del profeta, sino ai giorni nostri, perché gli arabi musulmani quando parlano di ISIS o Al-Qaeda li chiamano Harigiti, cioè proprio sono una categoria definita di oppositori al potere, come erano le Brigate Rosse. Cioè, non possiamo, secondo me, cadere nella trappola cioè movimento religioso violento. C'erano i brigatisti, c'erano i terroristi neri, cioè la violenza assume delle forme ideologiche che in questa fase, soprattutto nell'Islam, diventano connesse alla religione, ma perché non c'è un'alternativa politica, perché alla fine del colonialismo c'è stata la dittatura di Mr. Nasser ha eliminato tutti i partiti politici, non solo i fratelli musulmani sono finiti in galera, ovviamente anche i comunisti, e con buona pace di tanti comunisti nel mondo che lo sapevano. E poi c'è anche un altro problema, perché non ricordarci che negli anni 50 tutti i nazionalismi arabi hanno secolarizzato lo Stato, hanno secolarizzato, sì, ma con un'eccezione: gli affari della famiglia, che riguardano le donne, restavano nelle mani dei religiosi, ed è lì che è morta la democrazia, è lì che è morta la democrazia, e non ce n'è, quello è un problema drammatico, perché ce l'abbiamo qui, questo problema, qui nel senso di comunità che entrano in Europa, che vivono in Europa e che nella democraticissima Inghilterra si ritrovano, che cosa? Con l'idea della common law si accolgono i tribunali sharaitici, così le donne sono costrette a stare con l'uomo che lo picchia, perché tanto loro, gli inglesi, nel tribunale sharaitico non entrano. Ma siamo matti? E purtroppo questa è la democrazia, no? La sentenza dell'imam, cioè roba che tutto questo, se andiamoci a studiare le carte, perché il problema è serio. Ecco, un'altra cosa che vorrei dire, poi me ne vado perché sennò altrimenti parlate sempre voi, ma siccome mi ero repressa sull'Islam perché dicevo non è possibile, stiamo sempre a parlare di Islam. Ecco, il discorso della relatività nel Corano. Nel Corano c'è la sura fondamentale che dice: Dio ha creato etnie e religioni diverse affinché vi conosciate tra di voi. Cioè è lì. Quindi non si capisce perché questi dell'ISIS dicono no, non è vero. Cioè, ma la Sunna convissuti pacificamente più o meno, ma sicuramente più che da noi, con il concetto della dhimma, cioè la minoranza religiosa ebraica, zoroastriana, cristiana, stava tranquillamente nell'interno del califfato omayyade, abbaside e ottomano, e si amministravano tranquillamente con le loro regole all'interno della comunità, pagavano la tassa, eccetera. Quindi quando poi arriva il liberalismo occidentale e il nazionalismo nell'Ottocento e finalmente il sultano, sulta vuol dire potere, non vuol dire califfo, sono due cose diverse. Il sultano dice vabbè, ok, facciamo i cittadini, siamo tutti uguali, quindi facciamo il servizio militare per tutti, quindi eliminiamo questo esonero per i cristiani e gli ebrei, e lì scoppia la rivoluzione, esattamente come capitò in Sicilia al tempo dei fasci. Cioè, nel senso che il contadino che deve dare i figli che lavorano la terra alla patria, che non ha mai visto, per andare a fare il servizio militare, lì esplode il primo conflitto tra il contadino, che è il 90% della popolazione nel tempo degli ottomani, e l'Occidente, che impone un esercito moderno. Ecco, l'ultima cosa, lo scambio delle conoscenze, quanto è bello e quanto è ricco. Cioè, uno dei grandi innovatori della lettura del pensiero islamico è Hasan Hanafi, un filosofo egiziano che agli inizi della carriera era nasserista, poi è diventato fratello musulmano, adesso se ne sta tranquillo da solo a casa sua perché non è aria. E lui praticamente ha riletto l'Islam come una nuova teologia della liberazione. Ed è vero, perché l'Islam è rivoluzionario, però io non sono d'accordo col mio amico Campanini che dice dunque l'intellettuale organico e dei fratelli musulmani, perché lì ci sono problemi fondamentali come quello della libertà della donna, e torniamo lì, cioè non per un'ossessione, per una banale constatazione. Ecco, vabbè, basta. Luigi Santri, confronti. Le cose dette sono molto interessanti, io starei qui un mese a sentire perché è proprio bello. Ma mi voglio fissare solo su un problema che hanno detto i nostri amici storici. È verissimo quel che diceva il professore, che i primi tre secoli del cristianesimo sono pullulanti di pensatori che dicono che la fede deve essere libera. Si dà un piccolo particolare, e quando vanno al potere se lo dimenticano, e questo non si può dimenticare. Un mese fa è uscito un documento della Commissione Teologica Internazionale, che è un board del Sant'Ufficio, sulla libertà religiosa. Parte dalla dignità tessumana, fa tutto il discorso, parla anche dell'Islam, e quando viene a trattare come mai nella Chiesa romana c'è stata l'oppressione, ma erano quei tempi, ma se tutto sommato, quando hanno capito, insomma, c'è tutto un pasticcio per negare una cosa evidente, che nella Chiesa cattolica romana, che non è la Chiesa, come dice Eugenio Scalfari, perché è una delle chiese, perché anche la Chiesa ortodossa russa è una chiesa, ma non è la corsivo chiesa. I laici dovrebbero saperlo, ma non lo sanno neppure loro. Dunque, la Chiesa Cattolica Romana per 1000 anni, non per 2 giorni, e pone un problema teologico questo, perché non è un errorino. Ha vissuto con questo principio, non esplicitato, ma vissuto, la verità a tutti i diritti, l'errore a nessuno. Da qui viene l'Inquisizione e tutto il resto. Non si può bypassare questo millennio facendo finta di niente. E questo documento fa appunto finta di niente. Termino dicendo una cosa, che sentendo prima parlare, dico, ma o siamo troppo avanti o siamo troppo indietro. Perché il nostro caro Fyodor Mikhailovich Dostoevskij, nostro grande russo, grande letterato, in Brazia Karamazovi, che sono i fratelli Karamazov, racconta la leggenda del grande inquisitore e dice che Gesù nel 1500 viene a Siviglia, il grande inquisitore lo vede, lo fa prendere, lo porta nella torre e tutta la notte discutono, cioè Gesù non parla mai, parla solo lui. E dice quel che ha detto il nostro amico qui, che sarebbe una cosa interessante. In russo dice durak, stupido. Dice il grande inquisitore, se non ci fossimo stati noi, col miracolo, con l'imbroglio della gente. La gente si bacia le mani, la gente non vuole la libertà. Tu saresti finito. La Chiesa esiste perché siamo esistiti noi. Se c'eri solo tu, non esisterebbe la Chiesa, la bontà, il rispetto della libertà. Quindi questa tensione, diceva il professore, mi porta a dire allora che la Chiesa non esiste se non tradisce Gesù Cristo. Perché se è buona testimonianza, senza violenza, sono quattro gatti. Per essere tanti, per avere potere, bisogna tradire il Vangelo. Sono obbligato a rispondere. Ammiro il pathos della... Dunque, se il mio critico avrà la pazienza un giorno di leggere il volume che ho scritto, troverà documentazione che per cui la sua tesi deve essere quantomeno in parte ridimensionata. Nel senso, e questo è un paradosso, perché il capitolo sulla libertà di religione nei primi secoli della Chiesa, mi dovete credere, ma è pochissimo studiato. È pochissimo studiato in generale, gli stessi cattolici. Quindi lei ha ragione quando dice che il documento che esce così non motiva adeguatamente. Io quando ho dovuto scrivere quelle pagine ho solo dovuto andare direttamente ai testi, insomma, ecco. E uno scopre poi quei testi, li legge e dice, ma sono modernissimi, dice, ma questi sono autori moderni. No, questi sono i padri dei primi quattro secoli. È soltanto che quel principio è in realtà al cuore della modernità. Giustamente lei dice dimenticato. Attenzione, non dimenticato quando il cristianesimo va al potere, No, perché resiste per un altri 50 anni, va avanti, perché anche gli imperatori cristiani dopo Costantino ammettono tutti la libertà religiosa. Quindi non c'è persecuzione dei pagani. Ma questo io sto dicendo, l'avevo detto prima, è con Teodosio che cambia la musica, ma cambia la musica nel senso che passiamo all'impero cristiano, romano cristiano, e quindi, ma io, come penso di aver dimostrato nel mio libro, è significativo che ancora dopo il 410, quando Agostino inizia a scrivere il De Civitate Dei, qui c'è Gaetano Lettieri che mi guarda, quando inizia a scrivere il De Civitate Dei ritorna al modello pre-teodosiano, perché in tutta la città di Dio non c'è un solo accenno alla figura dell'impero romano cristiano, c'è l'elogio di Costantino e di Teodosio, ma per i loro costumi miti nell'esercizio del potere, ma non c'è la sacralizzazione dell'impero. Anche perché Agostino deve difendersi dall'accusa dei pagani, i quali dicono, ecco, siamo passati agli nuovo Dio, e questa è la conseguenza, cioè la devastazione di Roma. Quindi non può più usare l'argomento di Eusebio di Cesarea sulla legittimazione cristiana dell'impero, e ritorna al modello dei primi secoli. Quindi c'è una dialettica interna al mondo cristiano che non si spegnerà mai tra il modello cristiano originario e l'istituzionalizzazione della religione ad opera di Teodosio, perché comunque il modello originario è quello per cui Cristo di fronte a Pilato dice il mio regno non è di questo mondo, e pagate a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. E questa allora era una rivoluzione senza fine, perché tutta la religione pagana è teologia politica. A Roma la più grande tempio è dedicato alla Dea Roma, e Atene è Atena. Quindi voglio dire, tutto il politeismo è teologia politica. Le due città di Agostino spezzano l'unità teologico-politica di tutto il mondo antico. È una rivoluzione incredibile, noi non ci rendiamo nemmeno conto di quali conseguenze enormi. Non è possibile parlare di laicità moderna se non si parte da tutto questo. E comunque quando si reagisce, perché la laicità moderna nasce come reazione alle guerre di religione, nasce come reazione all'intolleranza cristiana dei cristiani che si combattono tra di loro. L'illuminismo è una reazione alla crisi dell'Europa cristiana, ma riprendono ideali che comunque, come accennava prima Lettieri, sono secolarizzazione di un modello cristiano che era stato dimenticato ma mai sepolto del tutto. Quindi l'Occidente è una creatura complicata e non è fatta di stacchi netti, è fatta di passaggi cruciali, certamente, ma il modello della libertà che è entrato nella storia, grazie alla distinzione dei regni, grazie al fatto che questo regno non si afferma con la spada, perché la spada di Pietro, quando Pietro la usa, Cristo gli dice di rimetterla nel fodero, perché il mio regno non si annuncia così. Ebbene, questa dissociazione tra religione e violenza, questo fatto che Cristo stesso, la vittima, si offre alla persuasione e non alla coercizione, segnano per intero la storia dell'Occidente. Paolo Quintili, io volevo tirarti la volata mentre vieni qua. Vieni, vieni. No, io sono rimasto colpito non dalla provocazione, insomma, ha delle posizioni molto argomentate sia di Lettieri che di Pasce, perché in qualche modo il riferimento alla leadership, fatemela dire così, alla dimensione profetica e anche all'organizzazione politica del pensiero religioso come un evento non storicamente costitutivo ma quasi logicamente, per problemi di teoria politica, necessario, e anche appunto gli aspetti controfattuali, diciamo, che appunto recepisco logicamente in questo modo, mi fa vivere la mia tradizione non solo marxista e socialdemocratica, ma anche, che posso dire, mi vengono in mente le posizioni anti-identitarie di Amartya Sen, no? Laddove Amartya Sen asserisce in sostanza, fatemela dire in maniera molto, molto brozza, che il liberalismo politico, soprattutto nell'epoca degli scambi globali, non sopporta l'identità, l'identitarismo, diciamo, no? Allora, sia la posizione appunto mia socialdemocratica oppure questa, sembrano residuali rispetto a quello che voi in una certa misura avete sostenuto, perché io non vedo il mio profeta, o meglio, lo vedo come se noi dovessimo resistere rispetto, diciamo, invece ad una logica della conformazione del politico che non ammette questo mondo così rarefatto, diciamo, di principi geometrici dell'organizzazione dello Stato e della politica e della democrazia, e invece rivendica la passione, diciamo, delle armi, la passione delle convinzioni, mettiamola così, la passione delle convinzioni strenue nell'aspetto escatologico, se volete, no? Che un tempo poteva essere il socialismo, diciamo. Ecco, questa cosa mi preoccupa perché mi rende un po' come un predicatore nel deserto, diciamo, come una Cassandra che è nostalgica, diciamo, di un'epoca felice, del secolo felice, diciamo, ma che oggi non ha gli strumenti se non inventandosi appunto un profeta, un nuovo profeta. Ecco, questa è la mia sensazione. Paolo. No, devi registrare, devi venire qua. Sì, per questo ti chiamavo. E poi chiudiamo magari. Io pensavo che concludesse già. Sì, allora io sono Paolo Quintili, sono professore di storia della filosofia moderna a Tor Vergata. E volevo intervenire su qualche vuoto concettuale o storico concettuale che ho individuato in questo bel quadro che comunque è stato sbozzato. Intanto condivido con Francesca Maria Corrao il problema fondamentale, e forse quello sì rivoluzionario, del ruolo delle donne nella storia delle religioni, nella storia del cristianesimo, e la questione della libertà non intesa così in chiave astratta, ma inquadrata in una dimensione di genere. Vabbè, questo tra parentesi mi sembra un punto fondamentale su cui bisognerebbe insistere di più. Ma il vuoto storico-concettuale che io ho individuato quando si parla di teologico e di politico è il fatto che tutta questa grossa discussione, proprio anche nei termini in cui viene svolta, è stata inaugurata da un certo Baruch Spinoza, che è un ebreo perseguitato, cacciato, condannato, e i cui libri sono stati a lungo perseguitati dal punto di vista della... Perché Spinoza aveva messo avanti dei punti fondamentali su questo tema, che ancora oggi vengono tra l'altro discussi dalla filosofia politica contemporanea, in Francia in particolare, un po' meno in Italia. E cioè il fatto che non si tratta solo della separazione tra lo Stato e la Chiesa, lo Stato e le Chiese, ma si tratta della libertà religiosa intesa come libertà di pensiero, nella quale libertà di pensiero devono essere compresi anche gli atei. E gli atei dove li mettiamo? In questo dibattito tra fede e religione. Ci sono 1.200.000.000 di atei su questo pianeta. È la religione, tra virgolette, più numerosa a cui appartengo io. Beh, io l'ho letto sulla Garzantina, adesso attenzione, bisogna vedere come intendere la nozione di ateo, certo. Questo bisogna vedere perché poi bisogna mettere i puntini sulle i, quali atei, cosa si intende, che tipo, se ateismo consapevole, cosciente, incosciente, eccetera, eccetera. Però questo è un problema importante oggi, cioè la modernità come la viviamo noi oggi non può, su questo dibattito tra fedi e potere, non può non tener conto della dimensione secolarizzata nel senso radicale del termine. Io sono illuminista radicale e ateo, lo dico chiaro e tondo, e pretendo che questa posizione ideologica e religiosa, io ho una mia religione personale, la trasmetto, la voglio far affermare, come tutte le fedi, senza nessun tipo di costrizione o di coercizione esercitata nei confronti degli altri. Non faccio proselitismo a confronto, a differenza di tutte le religioni del mondo ancora oggi, e questa posizione, che è una conquista, ripeto, in questa sala bisogna dirlo, è una conquista della modernità e della contemporaneità, deve essere presa in conto in un dibattito attorno a fede e religione. Mi dispiace, questo è un buco, una voragine, un abisso che nessuno, compreso Lettieri, ha saputo. Tu forse sei l'unico che hai fatto il cenno a proposito del cristianesimo. Io questo te lo riconosco, per carità, scusa. Però dico neanche. Dove stava? Nelle altre sedi. Ah, qui non c'era, però. Ecco. Voglio dire questo, no, perché mi pare che c'è una mancanza, un buco che andrebbe, secondo me, meriterebbe di essere, se non altro, ridiscusso. Poi un'ultima cosa e poi finisco, la questione della libertà religiosa e della tolleranza. Se parliamo in questi termini oggi, lo dobbiamo all'illuminismo. Ora è un anacronismo ingenuo quello di voler vedere, come vedeva Borghesi, nel pensiero dei primi cristiani, l'abbozzo della tolleranza e della libertà. Mi rifiuto, da storico del pensiero, di essere tacciato di ignoranza, perché gli rimando al mittente questa accusa, e gli dico vatti a studiare tutta la filosofia moderna da Erasmo fino a Kant, e qui chiudo. Non dobbiamo slabrarla, quindi io propongo questo intervento, se non ce ne sono altri direi di chiudere. Non ci sono, in generale non concludiamo, perché sta bastando dire il spirito della faccenda, quindi quindi se vuoi Gaetano. Sì, allora no, io non vorrei dato, come dire, l'impressione, forse mi sono spiegato male, ho come dire, compresso troppe questioni all'interno di un tempo breve. Quindi Quintilis fonda una porta aperta, cioè il presupposto di essere qui oggi, anzi direi che il discorso di Quintilis è l'esatto rovescio del discorso della Spini, che mi lascia inevitabilmente d'accordo, cioè ognuno è nella società, ovviamente, io ho parlato di secolarizzazione come orizzonte definitivo, ognuno è fortunatamente, grazie a Dio, libero di credere o di non credere, di credere A, B, C, D. Ho parlato di presupposto metodologico ateo con il quale io cerco di esaminare la storia del cristianesimo. In questo senso io non ho alcuna nostalgia di un... Allora, devo dire la verità, a me l'unico profeta che mi pare irresistibile, e qui io sono d'accordo con il mio critico, mi pare Gesù. Cioè, continuo a pensare, a riconoscere in Gesù laicamente, vorrei dire persino ateisticamente, una tale potenza umana liberante che da un punto di vista politico, storico-religioso, etico, vale la pena... Guardate che Spinoza aveva la stessa prospettiva. In fine dei conti Gesù è, in fondo per lui, chiaro che c'erano anche motivi di opportunità, ma in fondo lui rompe con l'ebraismo anche per questo. Il punto di riferimento spinoziano è comunque quello del cristianesimo, diciamo, settario olandese, chiamiamolo anabattista per semplificare olandese. E in realtà la questione del trattato teologico-politico, è vero che c'è libertà per gli atei, in realtà prima di lui c'era stato Hobbes che aveva idee un pochino diverse, quindi la questione si complicherebbe notevolmente. Aveva ragione Borghesi, a mio parere, se noi facciamo però la storia della filosofia moderna amputandola dalle radici medievali e patristiche, abbiamo un errore di prospettiva, di distorsione dell'oggetto che non rende giustizia al fenomeno storico che andiamo indagando. Non è un caso che Spinoza, Hobbes, questi padri della Chiesa, se lo leggono, che Hobbes è intriso, pensate al rapporto con Tertulliano, di studio dei padri della Chiesa, e Spinoza, sia con le radici ebraiche che con le radici cristiane, ha continuamente a che fare. Aggiungerei la questione della tolleranza. Io sono in disaccordo con Borghesi. Allora, ha ragione sul fatto che vi sono in Tertulliano, in Lattanzio, delle straordinarie apologie del pluralismo religioso, ma quando il cristianesimo è perseguitato? Indubbiamente non appena va al potere, pensate ad Ambrogio, la famosa questione dell'altare della vittoria, il cristianesimo diventa intollerante. Aggiungo, perché è un monoteismo che ha una proiezione politico-messianica, in qualche è universalismo, perfettamente d'accordo, che tende naturalmente, no, alla... con il ritardo della parusia, alla sovrapposizione fra aspetto teologico e aspetto politico. Quindi lo storico non può imbrogliare, mi permetto di dire, con le sue carte, no? Sono però perfettamente d'accordo con Borghesi che se noi dimentichiamo quella che è la proposta cristiana dal punto di vista della ridefinizione del soggetto, del rapporto politico, della dimensione di carità alla quale io facevo breve riferimento, noi non riusciamo a capire quelle che sono, diciamo, le grandi traiettorie ideologiche che poi nutriranno la stessa modernità. A livello, mi permetto di dirti, Quintini, che però a livello storico, prima di Spinoza, la questione della tolleranza è dibattuta da Erasmo, da Cusano prima ancora da Erasmo, ma soprattutto da Castiglione, cioè ricordiamocelo come seppure in prospettiva anticalvinista. Quindi la questione si complicherebbe notevolmente, cioè ha una scaturigine cristiana che lo stesso Spinoza eredita, e rilancia in prospettiva atea. Chiudo su una, scusate, sono così noioso. Io penso, per tornare a Borghesi, su Agostino, cioè il scusate, quando Bayle scrive appunto le sue opere sulla tolleranza, io ricordo che nell'Essai c'è praticamente nel titolo il riferimento polemico contro Agostino sulla questione del compelle entrare, cioè se è il grande manifesto della tolleranza e da questo punto di vista è un manifesto antipatristico, per cui ripeto, io non sono affatto uno che mischia le carte. Chiudo sulla tua sollecitazione, no, perché io non ho alcuna nostalgia del profeta. Io penso però che la questione del religioso, del post-secolarismo, impone una riflessione sulla dimensione pubblica del religioso, che anche la prospettiva di Spini, che è la mia, personalmente, per me non è in grado di mettere a fuoco. Io non ho risposte, io vivo della stessa difficoltà. Constato che il potere politico della Chiesa Cattolica, che ha una incapsulazione del santo nel sacro, non so se sono chiaro, ha un potere anche di liberazione molto più forte di una stessa comunità di laici illuminati che magari si riuniscono qui oggi e prospettano magnifiche sorti e progressive. Io mi ritrovo più da qui che da lì, non sia chiaro? Perché ha più potere. Allora, torniamo al rapporto tra religioni e potere. E poi chiudo, il grande inquisitore si conclude con Gesù che bacia sulla bocca, il che, come dire, complica notevolmente l'interpretazione della scena. Scusate, Deborah ha chiesto... Senza dire niente. Abbiate pazienza, scusate, ma prima di tutto io vorrei dire una cosa. Allora, io direi questo, fra il Papa e più del Papa, diciamo... Da dove si origina il mestiere di Papa? Nel primato di Pietro e nella mediazione sacerdotale, ovvero sia un punto che mi sembra l'attuale pontefice della Chiesa Cattolica Romana non abbia alcuna intenzione di mettere in questione, che fra gli esseri umani e Gesù c'è di mezzo una mediazione e questa mediazione è incarnata in lui. Punto. Poi Papa Francesco e tutto quello che vogliamo sopra... Bene, però mi sembra... È cattolico, ma infatti, Papa Francesco è cattolico romano, perché nel simbolo di Nicea, che non gli piace a Franco Barbero, però comunque si dice che si crede la Chiesa cattolica, che non è quella visibile, è quella invisibile, e quel credo lo dico anch'io nella mia chiesa di Zucconi, Niceni, Valdesi, Calvinisti, eccetera, quindi teniamo conto anche di questo. Fra i laici illuminati e il primato di Pietro, rispettatissimo collega, ci sono delle alternative e questo ricordiamocelo. Poi un'altra cosa, scusate, non dovrei parlare in presenza di chi fa il professore di storia del pensiero politico, però io credo che lei mi possa anche confermare in questo, c'è una differenza fra parlare di tolleranza e parlare di libertà di pensiero, perché noi vediamo che nei grandi dibattiti del Seicento la libertas philosophandi si può tranquillamente sposare col potere assoluto. Pierre Bayle, leggere l'articolo Hobbes del dizionario, sostanzialmente dice questo, libertas philosophandi per chi lo può fare, per gli altri una soluzione hobbesiana, tanto è vero che Bayle scrive un testo sui Valdesi dove lui dice «Ce sont des gens qui méritent la corde», sono gente che si merita la corda. Tutti sbagliano. Ecco. Paolo Docet. Come si diceva, un compagno che sbaglia. Allora, vi ringrazio a tutti della pazienza e ci rivedremo. Questa è la minaccia. Alla seconda puntata me la spiega. Allora, sì, grazie.